Assolutamente. Quattro mila euro per attaccare parte di noi che come da qua sono Zodia e il Washington sono un trucco spagata. Ah, sveglia, mettimi su subito.it. cosa? Mettimi su internet. Non ce l'ho, stai facendo un computer in mia figlia. Allora, mia figlia non è pulita. Quando viene, quella è campana. Quando viene, glielo dico che mi chiama e li mette lì. Gli fa anche le foto. Ah, è un alimentatore, 2 ampere, nuovo, ancora dentro la scatola. L'ho usato poco e nulla. Maggio di alimentatori. Oh, yeah. Vabbè, sempre voi. Dunque, vuoi prezzo, va bene. O no, sì, metti tutto su internet e la vendi subito. È meglio la voglio prendere tutta insieme, un blocco così, spesso di 40 euro, come una puttinuta. A venire uscì a un auto. Sotto un blocco, già andava. Eh sì. La vendi quella roba lì? Non so che già la vendo. Quando viene mia figlia, oggi non ci vedo. Se viene la prossima settimana, metto tutto sul tavolo. Si fa le fotografie e lo metto su internet. La vera vendo. Ma se la vendo locale è meglio. Così non sto qua. Questo baracchino, se dai di vendio, questa antenna cosa si vende? No, lo metto su internet, porto tutto un po', certo di qua dai, io si abbigliare subito, non ci credo. E cosa ti vuoi vendì? 3 baracchini, il quale uno è il portatile, 23 canali della Intec, mi pare, non me la metto. Poi il 40 canali, quello guardo, ma se si chiama, non me la metto. Poi California, 23 canali, un alimentatore, 2 ampere, una base magnetica e vari accessori, PL, spesso lì di filo con il PL. Via Basubio, o come si chiama? Via Bolicolo, a Via Bolicolo voi state tutto. No, chi dice che vuoi mangiare trucco? Ma che non saranno. Uno che mette prezzi eccessivi e non riesce a venderla. Sono passato anche da passata, ma sapere la stessa cosa, Giulio. Perché prezzi che li ha troppo cari? Per essere un rivenditore di usate, troppo caro, ma i ultimi. Polacca 5 molto forte rispetto agli altri, sì. e portalo allora a Portobello, oppure a qualche altro, cosa vuoi dire? Così, prima o poi, certo, tu glielo dici, guarda, se non riesci a venderlo, vengo me lo riprendo, no? Loro fanno così, non è che te lo pagano quando glielo porti. Sì, c'è qualcuno che te lo paga anche, però lo vuoi del regalo, quasi, e poi magari se lo prende con uno, con un incentivo naturalmente, è ovvio, no? Se no come fa a guadagnare? Capito? Giulio! Sì, avanti. Ciao, dammi un controllo, come sto uscendo? Sta uscendo bene. La radio è buona. Il segnale è 9.5. Ascolta, Alecco, devi da fastidio? O va bene? Beh, c'è un piccolo rumore nel microfono. Una specie di cosa, come si dice, di fischietto leggero, però si sente. Sì, vabbè, comunque la radio è molto metallica, eh. Guarda qua adesso. Aspetta un attimo. Guarda adesso. 1, 2. Ah, sì. No, è peggiorata, la radio è peggiorata adesso. Così è peggiorato la radio, con l'eco ha peggiorato la radio. Sì, no, non va bene. Prima era metallica ma era chiara. Via, adesso ho cambiato l'eco, guarda un po'. Com'è buono? 1, 2, 3, 4. Sì, l'eco c'è, questo sì, magari ripete troppo, abbassalo ancora un po' e vediamo un po'. Però ripeto, la radio è molto metallica, eh. E aspetta, ora, adesso guarda un po', toni alti, adesso toni bassi, cosa è cambiato? I toni bassi aumentali ancora, metti ancora toni bassi, capito? E diminuisci i toni alti, che sicuramente ti vale un pochino più corposa la voce. La manetta mi toni bassi, guarda un po', adesso sono a metà della tonalità e così toni alti, guarda un po'. Sì, diciamo che può andare, così può andare, però c'è sempre troppo eco. Ecco, ed è anche tutto sommato. Abbassa l'eco, molto abbassalo. Guarda, adesso ecco è quasi intero, lo senti appena. Ecco, così cominciamo ad andare meglio. Adesso mettimi solo la portata, che voglio vedere se c'è qualche rumore sotto, perché c'è sicuramente un fischietto. C'è un fischio, te l'ho detto da poc'anzi. C'è un fischio. Il fischio dell'eco, non posso eliminarlo. È il trimmer, capito quello là? Quindi, anzi, molto meno di poco fa. Adesso meglio, la timbrica adesso andrebbe bene così, Antonio. È la tua voce, però ripeto, c'è sempre questo fischio sotto. Adesso c'è lo stesso fischio, però ecco non c'è, giusto? Infatti ecco non c'è adesso. Infatti adesso questa è la tua modulazione, ecco, non ce n'è, però c'è sempre il fischio, devi eliminare quel fischietto. Giulio, come fai a eliminare il fischietto? Cosa ha mangiato, Graziano? Fischi, è tutto fischiato, non lo senti. Già li digerisci, ciao, già li digerisci. Fischiato sei tu. c'era il fischio. Il fischio già c'era. Ma già l'ha sentito, anche lui, dunque. No, ma la modulazione comunque era riuscito a regolarla, la modulazione andava bene come era, era la sua voce, se Savecco era la sua voce, però c'era il fischietto, e vuol dire che gli piace la musica, no? Che effettiva, se a uno gli piace la musica è chiaro che qualcosa deve mettere, no? Sottofondo. Caro fratello, cerca di venire a portarmi i soldi, se non in chiesa andiamo male. La voce comunque elimina tutti i fischietti che ci sono e vedrai che va bene così, regola bene. Ci sei quasi, comunque ripeto Antonello, togliendo l'eco e la tua voce naturale, la tua voce naturale, e dunque però se tu di anche lei quel fischio va ancora meglio, no? Ehi, già ti ho capito, non ti preoccupare. Alleluia! E adesso mi sembri, il prete di qua, dei punti mi sembri adesso, quando canta Alleluia. Grazie. Avrà la spina dal gargherotto e fischiata a quello, la sfida del carciofo. Sono scelte. Ciao Luca e ciao Daniele, avanti Daniele. Io rimango in ascolto, mi sposto con Massimiliano, eravamo qua e stavo aspettando a lui su 10 per vedere se era sistemato l'antenna, se entra mi sposto. Ok. K. Allora, avanti giù. Ok, ciao Cla, anche tu c'è, non l'avevo sentito. Avanti Daniele. Daniele, radio di cartone, cazzo la buona anima, ogni tanto te vai vivo tu, vero? Non ci vediamo, se ci sei vai al canale 20, ciao anche a te. Ciao Cla. Massimiliano, canale 20 da parte di Claudio. Ok, se prendiamo. E allora già, come va? Qualito sì. Sono detto parafolo, ma non è che sia ancora bene, sta meglio, è la verità, sta un meglio, ma ancora non è passato del tutto, piano piano, se domani è del in bianco, già 5 giorni, patate bollite e carote bollite. Capita all'anima, ma è dal dottore, non ci sei andato? Sì, mi ha dato fermenti lattici, mi ha dato il modium da prendere, non c'è verso, è una gastroenterite presa dal virus, capito? Che è proprio? Il problema, tutte le volte che ti ammali tu, dura troppo la tua malattia, troppo. Ma comunque adesso, se sei andato a lavorare vuol dire che è migliorato, va bene così. Adesso qualche altro giorno, magari uno, massimo due, poi sarei bene alla grande. Avanti Giuseppe. Tappa. E allora Giulietto, va bene? Sì, tutto in peggiore sempre. Cosa vuoi fare Giuseppe? D'altronde. Vabbè, il tempo è quello che oggi purtroppo la giornata non è splendida come ieri. Domani dovrebbe migliorare, speriamo bene. Anche perché domani se migliora vado a guardare qualche partita di calcio qui in zona. Babbo dai, riprendi a far girare tu per Daniele, vai. Figa. Avanti, Daniele, se ci sei, radio di cartone. Da quando ti sei sposato, cazzo, non ti sei fatto più tindì, cazzo. Cosa stai facendo? Lavoro, casa, casa lavoro. Sto facendo straordinario. No, io adesso sono impegnato tutto il giorno, dalla mattina 9:15 fino alla sera alle 6, dunque a fare queste, a camminare a piedi, dunque quando rientro una piccola doccia, cenare e poi guardare un po' di TV e poi indomani nuovamente sveglia alle 7:30 per andare poi al lavoro, hai capito? Io mi mando ma i mesi e mesi, Giuseppe. Vabbè che tu sei sempre nel gruppo TNT e dunque lo so il lavoro vostro e sai quando inizi ma non sai quando finisci. Sì, io ci sono, ma non sono io che sono modulato, quindi non ho risposto. Vabbè, io ho chiamato a te, poi te lo prendi, stava a te le prendi già. Via. Vabbè, ma sta accennando un po' di sole, non male che mi inizio, tanto devo andare a comprare il mouse che mi si è rotto. Mi si è rotta la bottellina e devo andare a fare una passeggiata e andare a comprarlo. O lo faccio adesso o lo faccio domani mattina, adesso vediamo, va. A chi non è che faccio la gara giù. Ok, già. Perché col portato il mouse usi tu? Sì, sì, lo uso il mouse, sì. Ho capito. No, pensavo che usavi quello, il tuo contenuto. No, vabbè, comunque. Quello avete meglio, quello esterno. Va benissimo così. Avanti Giuseppe per salutare a Daniele. Sì, yeah. Ciao Daniele, buon tutto là, ce la risentiamo tutte quante le prossimine. K e Rogero. Sono ben tutto per la Giulia. Come hai detto qua, non ho capito. Tra hai venduto il microfono, potevo sollevare quando parli tu e abbassare quando parla Gianni, al contrario adesso. E cosa ti vuoi fare? Aspetta che te lo metto, aspetta. Ma se lo stavo usando giù, eppure alto. Ah, sta, stavo sul processore, già. Ecco qua, vai che lo potete, eh. Ecco qua. Senta, vedi? Sì. Allora, sta il processore. Non sei, te l'hanno fatta toccare, non sei più riuscito a regolarla con la radio, stai strappando. Perché lo sto usando adesso. Vediamo, se è quella, attacca, se è quella. Così bene va. Potrebbe andare meglio, ma meglio di prima. Cioè, sta sempre strappando, devo abbassare ancora. No, non sta strappando adesso. Ma è bassa sempre la radio? No, non ti sento più come ti sentivo quando l'avevamo regolata. Non la sento più bella pimpante, bella... non so. E la devo aumentare, cosa ne so, qua aspetta. Oh, yeah. Così come adesso, troppo forte è così. Se non dici già va bene, ma non vorrei che ti abbiano fatto cambiare l'impedenza del microfono, non lo so. Aspetta, che controllo? No, già è quella 50. Già è quella 50, Quando l'hai usata per la prima volta e l'hai regolata ti sentivo molto meglio, adesso non so, vabbè, comunque, l'importante è che non strappi, già va bene. Avanti Gianni. No, perché sicuramente l'ha abbassata, perché forse è solo una cosa di volume qua, una questione di volume di errore abbassa. La sentivo più pimpata anch'io prima, ma probabilmente l'ha abbassata, l'ha usata con questo microfono, non so. Non so, ognuno della propria cosa fa quello che vuole, quelle sono radio che intanto non si usano sotto i 10 watt e continuerò a ripetervelo per l'eternità perché rischiate di incollare il microprocessore delle C. Poi una volta che regolate cazzo la città come io dettagli a te fare io non le tocco mai, questa è la radio, questa è la modulazione, se è forte, bassa, timpante, e boh, c'è la tonalità tutte acute, non sento medio bassi, no, non sento niente di quella radio. Allora, quello lo confermo anch'io. Aspetta un attimo. Allora, intanto mi sono stazionario, prima di tutto. Cosa faccio? Aspetta, dai, ma... Ho detto, riprendete un attimo, che devo ancora... Dai. Ci sentiamo tutte le procedimine che mi hanno chiamato e quanti è una buona domenica. Ciao, quelli ti per me. Ciao, le ciao, buona domenica, grazie. Sicuramente aveva sentito la cosa. a metterla a 5 watt e 4 watt, perché quella radio c'è per finale, te l'ho detto a 50 watt, te l'ho detto di toglio, si chiama il microprocessore, si è venduto. Lasciala stare così, avanti Gianni. Adesso va bene, prima c'erano molti acuti e pochi bassi, però stavo per dire io, quando c'era giusto stavo per dirlo io. Allora adesso va bene, dai. E l'unica cosa da fare è sempre se si regola più, non dare retta a nessuno e basta. Quando va bene, ti ascolti tu, se ti va bene a te, e chi sarà ragione. No, ma lui quando parla con i vicini, Giulio, ha rotto il sistema che ha rotto io. Io quando parlo con Antonello, non lo tocco il Michigan. Disinserisco il processore che è più facile, capito? Togli il processore e basta. Ho finito. Se tu ti metti a regolare, poi non ce la fai più a... è sensibilissimo col Michigan. Non è come il 340 che c'ha lo slider, vai avanti e indietro. Lì basta un pelino e ti fa strappare, capito? Proprio un pelino. Adesso è regolata bene. Se ti dicono di abbassare, perché sei troppo forte con i tuoi vicini, stacca il processore, disinserisci il processore. Non succede niente. No, ho capito, sì, sì. Quello voglio sapere che... Aspetta. Così, 45 watt. Lo lascio con io, 45, così. 45 watt va bene, 40 watt è importante, ma non la mettere più sotto, perché altrimenti non spinge il processore, non dà un senso da decidere, un casino, rimane tutta gracchiante la modulazione, è fatta apposta per camminare con la radio. A 5 watt allora conviene trattare uguale a T. Io ce l'ho sempre a 30 watt il 430, perché è uguale a quella lì, cioè per finale a 50 watt. Ce l'ho 30 watt di portata bianca, che sono più che sufficienti in città. Modulati 50, 60, 70, capito? Non conviene metterla più bassa, perché altrimenti è un casino. Ok. Ma questi modulati, quando adesso è a 45, modulati non arriva, ma arriva a 100 modulati. E non sto gridando, sto parlando a voce abbastanza bassa. Dunque, da 45 poi il picchio arriva, la lancetta arriva a 100. E così deve essere, anch'io se parlo così, sono adesso 40 watt modulati 100, e il 50% aumenta del sole, perché c'è il prefinale che sta spingendo, se tu la metti in bassa non spinge il microprocessore, quindi la modulazione è brutta, e ve l'ho sempre detto. Bisogna lasciarla così, quella è fatta così, e come è uguale a questo 430 sono gemelle, stesso prefinale, stesso finale, stesso lavoro, capito? Quindi bisogna metterla intorno ai 30-40 watt di portante e lasciarla andare. Modulati sono 100 e sta spingendo, va bene, la modulazione è bella chiara, pulita, avanti Gianni. Ma che fine ha fatto? Il suo ma del farato. magari è impegnato con i viaggi in questo periodo. I viaggi di morti sta facendo, ma è l'altro giorno. Si è comprato un pulmino tipo quello a carro funebre. Viaggi di cadaveri e fermi. Ma cosa viaggi? Tutto un vembo, grazie. Altro che viaggi è... non l'ho più sentito neanche io, a parte gli scherzi, non lo so, avanti Giulio. Giuseppe, se vuoi entrare riprendi, non c'è un problema. Ok, e per noi allora, se tu vuoi dire che allora mi conviene andare a lavorare alle pompe funebre, perché fanno dei viaggi ricavabili, e vabbè, stai impegnato con lavoro, sicuramente. Io l'ultima volta che l'ho sentito saranno 10 giorni fa, e tra l'altro lo sentivo anche malissimo, era bassissimo veramente il radio, e facevo molta fatica a capire tutto quello che diceva, non lo capivo qualche parola di quello che diceva. E va bene così. E tu già, quanti watt tu stai usando, Gianni? Io 10. 10 watt? Ma anche lì è lo stesso discorso, claro, hai fatto il processore, anche il 140 o il 180, ma cos'è tu già? Il 180 o il 140? Ancora non ho capito bene. 140. Ah, 140. Stavo dicendo qua, ma anche lì è lo stesso discorso per il fatto della potenza. Quando uno non c'è più niente, questa è tutta un'altra storia. No, no, non già c'è il finale da 25 watt, lo può tenere anche da 5 watt, non succede niente. Due Massimiliano ci ha detto il due finale a 50, quello c'è Massimiliano sia 80 che era il mio, c'è il finale a 50 watt, il due finale a 50 watt. Infatti anche lui se lo tiene a 10 watt la modulazione è graffiante, se invece lo tiene sempre a 25, 30, 40, allora la modulazione è molto bella, capito? Quello di Gianni è tirato un pochino di potenza e un pochino di LC, dovrebbe avere scende ricordo, l'ho visto, ma non ho fatto vedere chiaro, mi pare che la metà la LC, però il finale è rimasto da 25 watt, come quello che ho io, anch'io ho un 340, c'ho il finale a 25, non è tirato per niente così, non va bene, quello lì è perché erano pazzie. Si facevano allora queste cose, ma se torno indietro non faccio più perché poi alla fine la radio la distrugge con l'andare del tempo, non durano tanto, capito? Ecco perché conviene tenerla sempre in una linea, 30-40 watt, lasciarla stare così, intanto un picco di modulazione non influisce sul microprocessore, influiscono in watt. Ha più picchi positivi quando è bassa che quando è alta. Infatti. Ho capito. Anche lo banchiere sta venendo. Sì, ho capito. Come la storia. Andare. Stavo dicendo, ma dimmi una cosa, anche questo è come il 140, che dopo un po' si stabilizza in fatto di potenza o meno. O questo è diretto subito, quello che ti dà all'inizio ti dà per tutta la durata della trasmissione. Invece il 140 mi sembra di aver capito che accendi e dopo un po', 4 ore, 20 minuti, si stabilizza e aumenta anche di potenza, confermi. 140 ha due conversioni, quello è un tre conversioni, quello tu lo lasci adesso a 40 watt e ce l'hai, ed è a 40 watt, non c'entra niente se è caldo o freddo, lo spegni, lo accendi domani, sempre a 40 watt lo trovi, c'è un microprocessore stabilizzato, il sistema dei watt è stabilizzato, sono tre conversioni, 140 è un due conversioni. Anche se 80 è tre conversioni perché c'è la scheda dei simmetrici, quindi anche quello cala un pochino rispetto al 430 e al 440, però è leggermente più stabile del 140. Capito? Ma il 140 è così, non è che è un difetto, è un due conversioni, quindi tu lo metti, io il 140 ho fatto sempre quello che mi hanno insegnato, no? Allora a caldo 40 watt e basta, e lo lascio stare così. Quando lo accendi, per circa un quarto d'ora, anziché andartene 40 te ne da 20, ma io non vado a toccare e metterlo di nuovo a 40, no, lo lascio sempre così, a 20 watt, poi piano piano che scalda se ne va, 40 rimane fermo lì, non si può andare in picco, ecco dov'è il discorso, capito? Il 430, il 440 invece tu lo accendi a freddo, a 40 watt che l'hai usato ieri, e lo ritrovi a 40 watt. Sì, ma volevo dire, posso subito modulare appena acceso 440, a differenza magari del risultato 440, ho capito, ma questo posso modulare o c'è bisogno sempre di stare qualche minuto in attesa che riscaldi un pochino? No, io lo accendo il modulo, no. È un tre conversioni, ti ho detto, non succede niente. Ho capito. Vabbè, buona sapersi. Vabbè, ci vuole esperienza in queste apparecchiature. Tra l'altro io lo uso anche poco e niente, perché uso quasi sempre il baracchino. Va bene, va benissimo così. Riprendi Gianni? Sì, vabbè. Già si fa piano piano l'esperienza. Io avuto. No, ma tu il problema, Giulio, è quando parli con Graziano, con Gio Maria, con quelli vicini, Massimiliano, eccetera, stacca solo il processore, perché se poi vai a ritoccare, come succede a me, immagino di PC, Cicilia, giù di va, tira, molla, e invece lasci la regolazione del Michigiri così com'è, di va, ti lasci così come sono, e vai a disinserirti solo il processore e basta, ti si abbassa un pochino la modulazione in modo che sia meno forte e non stai quello lì, poi quando parli con gli altri che sono distanti inserisci solo il processore e basta, perché sennò ogni volta perdi la testa, perché è talmente sensibile quel potenziometro del Michigiri che non li vuoi bene, capito? Basta proprio un millesimo e no, quando parli strappi. E mi avvicino, così secondo te la radio è ancora comprensibile come potenza oppure è troppo bassa? È bellissima, no, non c'è bisogno neanche di avvicinarti, è bellissima la modulazione, confermi già. È chiara. Ma io adesso sto facendo col processore dell'apparecchio, come sta andando? Va bene anche la tua, ma la tua è un altro tipo di radio già, quella lì è una bestia, capito? Se lui sbaglia appena col potenziometro, non ne voga bene, lascialo regolato così il potenziometro del Michigiri, e quando vuoi diminuire la radio non fai altro che staccare il processore, è bella come quando c'hai il processore, solo che col processore è più forte, più da combattimento, così è bellissima. Ho capito, adesso l'ho riattaccato al processore, sì, ho capito, vabbè, facciamo così, speriamo che sfogheranno, eccetera, non lo muovo, boh, invece che me lo vado bene, non di niente, aspetta, che mi ammazzo. Adesso il punto di riferimento della manopola è centrato giusto a uno, ma questo è centratissimo. Uno io la tenevo quella radio, a uno anche meno di uno a volte, proprio uno scarso, e ottenevo dei grandissimi risultati. Se tu sollevi più di uno, te ne vai in distorsione perché è troppo tirata, capito? Quindi no, non c'è problema. La lasci stare così, va benissimo, non strappa, è fortissimo. Quando devi disinserire, disinserisci il processore blu. Lascia tutto così, perché, e soprattutto non abbassare i watt, non te ne scendere a 10 watt, perché a 10 watt c'hai solo picchi di modulazione boh, non sta andando il prefinale, deve lavorare almeno a 30 watt, non dico deve lavorare a 50, che è il massimo della portante bianca per il prefinale, ma almeno a 30-40 watt va bene, se tu lo metti a 10 watt manco lo stai eccitando, allora conveniva lasciarli quello da 25. Ah, così funziona, non lo sapevo. Ha fatto bene dirmelo. Ok, d'accordo. Ok, lezione tecnica di transizione. Molto bene. Avanti Gianni. Praticamente tu la prima radio che hai fatto sentire, quella lì era una radio da salotto, e se la potresti usare magari se entri la notte così, ma proprio che ti dà combattimento con la che stai usando adesso, ma si possono usare tutti e due benissimo, perché anche l'altra è molto chiara, però è meno combattiva e rimane più soffice. Ecco, hai fatto il becco, e dimmi una cosa, Oca. Ma se tu vuoi andare per dire nei canali di banda laterale, è sempre la stessa lavorazione, bisogna tenere, come un attimo break, Sempre uguale, non lo toccare mai, Michigiri, stacca il processore sempre, anche in banda laterale, anche in FM, se è troppo alta, non toccare il processore, non toccare il Michigiri, stacca sempre il processore. Tu lavora solo col processore con quella radio, perché la regolazione del Michigiri non è altro che la spinta che il microprocessore dà alla LC. Automaticamente in AM hai una spinta, in FM ne hai un'altra, in banda laterale ne hai un'altra, però cosa succede? Col processore inserito, il processore della radio spinge, eccita il microprocessore aumenta la modulazione, quindi collega alla funzionalità della LC e spinge e manda radio. Se tu disinserisci il processore non fai altro che abbassare, quindi eccitare meno il microprocessore al processore, dare meno spinta, la modulazione rimane sempre bella. Se tu abbassi la modulazione, cosa succede? Se abbassi il Mickey Gee, il processore spinge il microprocessore, quindi dopo di lui c'è la LC che deve mandare la modulazione, e se tu gliela abbassi non spinge, diventa graffiante. Quindi la prima regolazione da fare è sempre il Mickey Gain. Una volta tu hai regolato il Mickey Gain, allora non c'è problema, puoi lavorare solo col processore della radio e basta, sia in AM, se ti dicono che è troppo alta, troppo forte, uno in cuffie, stacchi il processore. In FM la stessa cosa, in banda laterale la stessa cosa, io non tocco mai il Mickey Gain del 430, solo esclusivamente il processore. Buonasera, Brita, da questa parte. Ciao Giulio, buonasera. Buonasera a te Claudio, buonasera a te anche a Gianni Luzzurru. Poi non ho sentito nessun altro, se c'è qualcun altro, buonasera a te. Ciao Beni, mi hai sentito, dai, buonasera anche a te. Avanti. Prendo io, allora, sono Benito, ciao Benito, ben entrato. Sì, c'era Giuseppe Doncino, ma probabilmente si era allontanato dall'apparecchio. C'è Claudio che ti manda avanti, Claudio, poi Benito. Ciao Benito, buonasera, ben ascoltato, saluto di cordialità, ok. Ah, ti ha salutato Gianni, non l'hai sentito, vai già per Benito. Mi ha perso di sì. Ciao Benito, buonasera, non so se mi hai ascoltato. Ehi, già, scusa, ma stavo bevendo e non ho avuto il tempo, dai. Comunque, buonasera, buona ascoltata anche a voi, a tutti quanti. Ciao ragazzi. No, non c'è problema, pensavo che non mi avessi sentito. Eccoli. Avanti, Claudio, no, Leoncino ha fatto quello di uscire. Spazio, se vuoi entrare qualcuno, c'era anche Giuseppe Tornado. Giuseppe, vuoi entrare? Forse si è allontanato, ok, va bene, ciao, quindi è Benito. Sì, ma infatti adesso stai andando benissimo alla grande, quindi non strappi, la modulazione è bella, forte, amplificata, perché c'è quel problema lì, se tu non dai il watt, quello non si eccita, se non hai il processore inserito con la regolazione Mickey Gain non va bene, è tutto un bilanciamento che deve essere. La prima cosa è Mickey Gain, tu quando c'è il Mickey Gain regolato sopra la radio con quel lavoro che c'è, sei a cavallo, processore inserito e via, e un po' di watt sotto, perché altrimenti non vende la radio, è brutta come modulazione, capito? Invece così è molto bello. Se vai in FM che ti dico, ma sei troppo forte, abbassa un pochettino, stacchi il processore, in banda laterale, suoni troppo forte, stacca il processore, già spinge lo stesso, e a voglia si spinge, con questa battenta che va a voglia da a cantamessa, riprendi Giulia. Ok, va benissimo, ok, vabbè, lasciamo così, lasciamo sempre così e non se ne parla più. Ok, vabbè, adesso mi ha dato una spiegazione più completa, mi hai dato, rispetto alle altre volte, capito? Io pensavo che questo discorso era tutta un'altra storia, capito? La volta mi avevo detto di non usare mai inferiore ai 10 watt, vabbè, e questo era scontato, però inizialmente all'inizio era a 5 watt, era, forse l'avevo spostato, non lo so come, comunque era 5 watt quando appena che sono entrato, capito? Adesso va bene così, ok, adesso ho memorizzato tutto e dunque va bene così. Dipendi, ho Benito, tu già mi senti bene anche se sei in Francia, sì? Papà, io ti sento bene, come sempre, poi se tu qua hai toccato qualcosa non lo so, ma qua la remodulazione è sempre la stessa. Ok, bene, va benissimo. E allora, alle volte arriva uno, due, ti sento, allora io non avendo esperienza con questo apparecchio, prendo, tocco, faccio e magari diciamo che il settaggio, nel settaggio c'è un squilibrio, e allora anche perché non sapevo che era necessario usare per forza i 40 watt qua, dal momento che hai il coso, come si dice, il finale da 50, hai capito? Tutto lì. Va bene, va bene. Mi prendi Gianni? Io ripeto che c'è un po' perché sono più uscito, mi vado a lavare 5 minuti, visto che sto meglio vi faccio una passeggiatina, prendo Marcolino, ci riusciamo, dai. Andare, ci sentiamo ragazzi, dai, magari anche dalla macchina, non lo so, adesso vediamo. Ciao a tutti, buona continuazione e buona domenica se non ci ascoltiamo. Ok, ciao Gianni, ci sentiamo, salutoni, buona passeggiata allora. Se ne voglia attacca dalla macchina e così ci sentiamo ugualmente. Allora, stavo dicendo qua, guarda che mi sto vendendo un Pirlo, lo compri a Pirlo o qua? Non credo un brucchio. Ma guarda che non c'è nulla a fare le pulizioni. Lo prendo io. Sì, va bene, riprendi. C'è ancora. Ciao Gianni, buona serata anche a te, buona domenica se non ci sentiamo. Ciao Benito, ciao, che ci sono, lo ascolto, io aspetto sempre fino a lì. Come a me, ciao ciao. Ciao ciao, buonasera. Ok, ciao di nuovo, già, ci sentiamo. Anch'io, per abitudine, aspetto sempre il trenarino. Vabbè, Claudio forse è impegnato, o al telefono oppure in altre frequenze. Allora, non te lo compro a Pirlo. Guarda che te lo abbasso questo, te lo nomi. Punizioni garantite. Al telefono sono secco. Vabbè. E tu, Robini, ti telefono te lo faccio, non te lo fanno niente. Puoi parlare adesso di motori e tutta roba che c'ha ruote. Ah, ho capito, E il motociclismo ti piace? Sì, anche il ciclismo mi piace. Mi piace il ciclismo, mi piace il basket e poi la tovaglia. Ho capito. No, io sono per il calcio, il ciclismo e anche il pugilato, quello già l'ho guardato. Soprattutto quando c'è il pugilato enorme che mi fanno ridere. Come ieri notte ad esempio ce n'era un incontro, altri due ne ho visto di donne ridicoli. Vabbè, comunque va bene così. Ma no, a me l'automobilismo sinceramente non mi piace, il motociclismo sì, quello sì, già lo guardo, solo che quest'anno c'è la Sky, grazie, sta in diretta, non ne vanno, adesso vediamo se c'è qualcosa in diretta domani, boh, ma non credo però, perché Sky io non ce l'ho, e allora il motociclismo mi sa che quest'anno lo salto, perché non ho nessuna intenzione di farmi l'abbonamento Sky, assolutamente no, ti abbatta quello che ho. Poi io non ne ho assolutamente niente, ma le guardo sempre quando lo danno, me le guardo, sono paziente. Lo so, però al motociclismo sono interessato, la verità. Sono sempre stato tifoso di Valentino Rossi, da sempre, anche se adesso in questi ultimi due anni la sua prestazione calata moltissimo, ma ci sono i campioni emergenti come Lorenzo, come Marquez, che sono grandissimi piloti, anche quelli, e oltretutto sono ragazzi, sono i miei capisci di Valentino Rossi, che ormai ha già 35 anni e sono anche, capito, bene. Ormai anche lui, i suoi giochettini, la sua adrenalina che c'era prima, diciamo, non c'era fa testa, l'ha già fatto, adesso ci sono gli altri, no? Sono più giovani come sempre e riescono sempre a dare di più, no? Vedi anche Pedrosa già è sceso adesso, come era prima con Valentino e tutto. Infatti anche Pedrosa, anche lui è un bravissimo pilota, però è stato sempre un pilota un po' sfortunato, Pedrosa. Intanto perché nel suo periodo, diciamo, quando lui era al top, c'era sempre Valentino Rossi e poi ha battuto Lorenzo, insomma, l'hanno messo un pochino in retroguardia a lui. È stato sfortunato, però come pilota mi piace, è un grandissimo pilota anche Pedrosa, molto molto bravo. Sfortunato perché ha avuto qualche caduta con incidenti abbastanza significativi, come la spalla, ad esempio, la gamba, insomma, un po' ogni tanto di queste cose che succedono. Va bene, non lo so, vediamo se Claudio ha finito il telefono. Non ha finito ancora. Riprendi, bene. Rally mi piace molto, solo che cioè rally è come ciclismo, a volte te ne danno, te lo fanno seguire un bel pochettino, a volte non te ne danno niente, non ne parlano neanche. Quello è vero. Anche il ciclismo è un bellissimo sport, la verità, a me piace, mi è sempre piaciuto il ciclismo. Secondo me ci sono molti meriti degli altri, nel senso che il capitano ha tutta una squadra a sua disposizione, perlomeno quando fanno soprattutto le gare a tappe come Giro d'Italia, Giro di Francia, eccetera. Ha tutta una squadra a suo servizio, gli altri faticano e lui magari vince. Vabbè, poi i premi vanno sempre divisi e questo lo so. Ma per dirti, un gregario, sì, bisogna che sia veramente forte per emergere, se no non riesce mai a emergere. Uno se nasce gregario è quasi destinato a rimanere gregario per sempre. A meno che non si metta in evidenza, vinca un po' di gare e allora il discorso cambia, eh? Allora lo ingaggiano magari in un'altra squadra e lo fanno capitano e così via, capito? Anche quello già è vero, che ma se uno vuole emergere si dà da fare, come hanno iniziato tutti, si dà da fare e si deve far vedere, e deve far vedere cosa conta, capito? Lo so, deve farlo vedere, però tante volte gli danno gli ordini, no? Dice tu non tira per dire per un determinato tratto di strada, così, e poi rimani dietro e passa un altro e così via. Cioè se uno ha veramente la forza di andare, per lasciare scappare un gregario bisogna che sia un gregario un po' andato in classifica, perché se no non gli ordini di scuderia sono quelli e non lo lasciano andare, non, anche se ha la forza non glielo permettono, dice no, devi stare dietro e devi aiutare, per dire, capito? Mentre invece se una forte, secondo me lo dovrebbe lasciare andare anche, e così lo funziona nel ciclismo. Lo so, ma come ho detto, il motociclismo, come le macchine e cose, sì, ci sono gli ordini di scuderia, però uno si fa vedere, poi all'ultimo momento ti fa passare, fa vedere e fa capire alla gente, come è successo in tante posti, fa capire alla gente che è un ordine che gli hanno dato. Sì, quello sì, vabbè, comunque. Comunque vabbè, no, il basket invece non lo seguo, non... è un bello sport, riconosco che è un bellissimo sport, però non mi interessa, non lo guardo mai, anche se a Sassari ci andiamo una bella squadra, però non mi interessa la verità, non lo guardo mai il basket. Ma quello sì, mi radina, lo seguo quando vanno in televisione, la stanno andando parecchio, e quindi me la guardo quando c'ho tempo. Sì, è una bella squadra, Era ora che a Sassari nascesse una bella squadra, in effetti il basket è già qualche annetto che sta andando forte qui a Sassari, molto molto bene. E meglio così, è un onore per la città di Sassari, no? Solo che si sa, i soldi a Sassari sono sempre quelli che sono, perché per raggiungere i grossi traguardi ci vogliono sempre un bel po' di soldi, e qui a Sassari no. Non credo che ci sia nessuno che possa affrontare certe spese così grandi come fanno quelli in continente, capito? Sì, già ne stanno dando di cose, i sponsor stanno entrando sempre, quindi... Eccomi qua. Soldi, come stai dicendo tu, mi sembra già 5 anni a questa parte sta andando bene con la squadra. Sì, riprendi qua. Chiappa, scusa che ci avevo a Massimiliano al telefono e poi stavo rispondendo a te. No, Pirlo non si tocca, anche perché lui deve rimanere fermo, lui non può neanche giocare, lui può entrare, rimane in panchina, ok? Entra solo al momento in cui ci sono le punizioni, a me mi sta bene lo stesso. Punizione veramente micidiale, lui praticamente ha trasformato la punizione in calcio di rigore, lui l'ha trasformata in più o meno così. No, non c'è, quella con Lione è stata allucinante, non l'ha manco vista, è rimasto fermo. Adesso ho gli alusetti, tocca lo bonifica, quindi è un po' pericolosa la cosa, perché è una grandissima squadra, fortissima, bonifica è molto, molto forte, c'è un gioco allucinante, quindi vabbè che siamo a Torino, però bisogna stare occhi aperti. Certo, qui il Benfica lo so, è una grande squadra, ma è sempre stata il Benfica una gran bella squadra veramente. Purtroppo è anche arrabbiata perché anche l'anno scorso è arrivata a proprio quasi un limite, in cui state vedendo, ma si batterà con il controllo Fredini. Io mi auguro solamente che la Juve, il club, la giornata la Juve e basta, tutto lì. Cioè, capisco benissimo che in quest'ultimo mese e mezzo ha calato abbastanza, ma è solo una questione mentale a quanto si dice. Non dicono che c'è stanchezza, io dico che è anche stanchezza, ma comunque staremo a vedere, speriamo bene. Speriamo che indovini una bella giornata di quelle grande, perché se gioca la Juve, guarda, io non ne ho di paura, ma se gioca veramente la Juve, come sa giocare? Se gioca come giocate in quest'ultimo mese, il compito diventa un pochino più pesante, più difficile. Speriamo bene. Lo vedremo. Ok, riprendi bene. Pirlo, come era zona prima, non te lo ricordi? Vabbè, Pirlo ha iniziato molto prima a giocare di Zola, sicuramente, sono una diversa età, comunque un grandissimo giocatore, mia, se ne sta mangiando le palle, scusando il termine, perché ha dato un giocatore a passo zero alla Juventus, capito? Un grande regista, un grande centrocampista, un grande giocatore, una grande persona, una bravissima persona, perché tu non lo vedi mai, mi riflette in tutti i rigori, non si gira, sta zitto, accusa, è di un'educazione in campo allucinante. Ammonire Pirlo vuol dire che è proprio granivato di tutti i manieri, capito? No, molti errori, Giulio, molti errori, condivido perfettamente, molti errori. Passaggi, questi errori, questi non mi piace come sta giocando in questo ultimo periodo, però purtroppo è così, lei basta un punticino e è sempre andato. Adesso vediamo questa Europa League come va, perché il Benfica è una grandissima squadra, io avrei preferito più il Barcellona, solo che è stato eliminato, mi pare. Il Benfica, perché guarda, le migliori squadre attualmente sono Real Madrid, non si discute, l'Atletico Madrid che è fortissimo, il Bayern di Monaco e il Benfica, il Chelsea così e così, il Benfica secondo me è molto più forte del Chelsea, non so, è da vedere, dunque speriamo bene, no? Adesso giovedì si vedrà, lunedì gioca di pomeriggio con l'Udinese a Udine, quindi ci servono anche quei tre punti. E poi si vedrà. Ok, avanti, riprendi. Ok, sì, certo. E adesso c'è da superare questo ostacolo qua. Intanto incominciando con l'Udinese lunedì, poi verso Benfica, e poi vedremo un po' fra l'altro che è il Valencia e il Porto, mi sembra, in quella Europa League. Grazie, vabbè. Io ho visto anche la partita l'altro giorno del Paris Saint Germain, che ha giocato da Dio, ha giocato veramente bene. E se continua così, non lo so, no, se riesce ad andare fino al tutto il Paris Saint Germain, guarda. Peccato che si è infortunato Ibrahimovic, perché lì in Champions Ibrahimovic non è stato mai, diciamo, fondamentale, però è sempre un uomo che trasciva la squadra, è una grande squadra anche quella, è veramente forte. Speriamo che non ce ne prenda la Pogba, perché quelli stanno facendo delle offerte pazzesche, andassimo via a 70 milioni per Pogba. Se quello dice 80 magari è capace che la Juve glielo dà, io mi auguro di no, ma comunque staremo a vedere. Riprendi, vieni. vecchia, non me ne intendo molto il calcio, ma comunque secondo me se la Juve, infatti, come stai dicendo tu, gioca come sa giocare lei, secondo me non ha problemi. Infatti la Juve è solo che in questo ultimo mese, mese e mezzo è calata molto, e d'altronde 3 anni subito che sta andando alla grande. Se noi facciamo un pochino di calcoli, il primo anno non ho perso la partita, dico il primo anno di Coppa, cioè 3 anni fa, il secondo anno ho perso qualche partita, ma veramente poco, cosa ho perso, 2 o 3, quest'anno ne ho perso 2, sicché in 3 anni praticamente cosa ho perso? Ho perso, parlo del campionato, ho perso mi sembra 5 partite, 6 o di più in 3 anni, e non è poco, è una squadra che non perde, giustamente vince, tant'è vero, quest'anno c'è la Roma che è fortissima lo stesso, però ha trovato la Juve che va a 1000 ancora più forte, sta battendo tutti i record, sta battendo, e allora è per quello, se non la Roma quest'anno era ancora da temere, non si può mai dire, speriamo bene, riprendi qua. Sì, sì, certo, la Roma è una grandissima squadra, pur con questo, senza tutti, con l'ingresso di destro è micidiale, adesso l'hanno squalificato, quindi è un po' in pericolo la Roma con questa partita, però ti ripeto, c'è una grandissima squadra, grandissimi giocatori, senza nessun problema. Io continuo a non vedere nella Juve il secondo attaccante, questo Llorente sì, ha fatto una bella partita, ha fatto 2 gol l'altro giorno, però è sempre in chili, non corre, non fa, cioè, si è visto con Napoli senza Tevez, li ha provate tutti e due, Vucinic, Osvaldo, poi è uscito Osvaldo, è entrato Llorente, Vucinic, Llorente, Vucinic, Giovinco, non c'è ancora il secondo attaccante come Tevez o Giulio, e quindi non lo so, come sto Llorente non è mai piaciuto, è commesso, è un barrasone, come ti dico, è un gigante, però è lì, no? Se fa delle giocate belle qualche volta, come quella girata, quel bel gol che ha fatto, però sto dicendo, se fosse in forma Vidal, c'è questo cazzo di gamba tutta distrutta tra il ginocchio di tutto, tutto truncato, perché se c'è in forma Vidal con Tevez, no, che ne fa nessuno. Sì, questi effetti, diciamo che sì, non è che sia poco giovane, però non è nemmeno, non è, diciamo, certamente che io mi aspettavo da Juve, ecco, questo sì, sì, già li ha fatti 13 gol quest'anno, già se li ha fatti, ma se li ha fatti soprattutto perché c'è Tevez che lavora molto lì in attacco, sul fronte d'attacco, e cosa succede? Riesce a sbloccare lui e lui qualche cosa già l'ha fatto, però non è, in effetti non è quel grandissimo campione che io mi aspetto dalla Juve come ha avuto in altri tempi, indubbiamente, cioè io sono sempre dell'idea che l'attacco, se è fortissimo l'attacco, la squadra avversaria ha sempre paura, rimane sempre più coperta, rimane, dunque ha meno possibilità di andare in attacco, perché si deve proteggere, però se sei forte, anche se ti proteggi, quello ti segna lo stesso, il gol, e allora la questione va anche bene. Ad esempio Vucinic lo stesso, a me Vucinic non mi è mai piaciuto, la verità, nel senso che non ha fatto grandissime cose per me con la Juve. Cioè un attaccante che da 10 gol all'anno in una squadra come la Juve non serve a niente, no? Non serve a niente, ci vogliono giocatori che segnano, che abbiano un gioco che c'è questo. Che poi è della Juve praticamente al 50%, poi c'è l'altro Zaza e l'altro Bilaschi o Biluschi o come ci si chiama, un altro sempre, anche quello è fortissimo lo stesso, stiamo a vedere se riesce a prenderne qualcuno di quelli, e ieri, mo ve ne dicevo quello con la Juve, perché uno intanto è forte fisicamente, praticamente come Llorente. Llorente lo stesso, fisicamente è forte, però non ha quella grandissima tecnica da attaccante proprio o stoccatore, capito? Cioè ci vuole uno, un appinatore d'aria, come lo era Inzaghi ad esempio, tanto per fare un nome, come lo era Di Natale, gente così più buona, gente che tocca segnare veramente. Se no tutto il lavoro che fanno la squadra intera si perde così poi sul fronte attacco. Vabbè, comunque saremo a vedere. Avanti, vieni. E continuate voi a parlare il calcio, a me non è interessante molto. Cambiamo discorso, sempre quello, non ci sono problemi. Riprendi qua, dai. Cambiamo discorso, così partecipa anche Benito alla grande, vai. Sì, era giusto per dire qualcosa a Benì, per fare croce o no, tanto non venuta da lì, e così e basta. Comunque, per finirla qua, io ti dico che per conto mio, di tutti i centravanti che c'è la Juventus, Tevez va bene, numero uno, io avrei provato la coppia fissa, avrei provato tutte le domeniche. Quagliarella è veloce, è uno che sta sempre in aria, è un opportunista, è uno che fa un tiro allucinante, quindi si agatta a dire come ti fa di Tevez, e sta lì alla caccia sempre del pallone, tipo Llorente, è un mostro fisicamente, sarà una grande persona, però per me è un cadavere, punto, va bene. Cosa stavo dicendo? Beh, novità, questa radio, ogni tanto la accendi. No, adesso usiamo sempre questa, anche quando era un po' di giorni fa l'ho accesa, non c'ho tempo qua, adesso mi sto andando mio, appena finito passare il tuo erbarili e allora mi sono seduto adesso. Positivo. No, io oggi ho fatto dare tregua, lunedì vediamo se riprende il bel tempo. Ci sono ancora un po' di impianti da finire e poi faccio riservare tutto perché ho già preso, ho superato il budget della benzina, tu immaginati, già superato il budget della benzina, non c'ho più buoni d'acquisto per la benzina, non prendersi sfogliatori, un'altra epa che stanno a un bagliato, proprio non c'ho più buoni di per comprare benzina, capito? Per comprare benzina, e quindi adesso aspetto questa settimana da lunedì in poi, se da 3-4 giorni, 3-4 giorni, almeno nella mia zona, poi l'altro referente si arrangia, io nella mia zona faccio tagliare tutto e poi faccio riservare proprio col trattorino, si attacca il rullo con lo serbatoio, trattorino piccolino, faccio riservare tutto perché è impossibile, cioè no, è una cosa allucinante, vedi, perché in una ghetta ha già consumato 30 litri di benzina, in una ghetta 30 litri di benzina. E io la settimana scorsa l'ho tagliata, mi non so quanto è cresciuta, ma vuol dire perché sta piovendo moltissimo, capito? Quindi il terreno è bello succoso di acqua, adesso come esce un pochettino di sole e logico di sviluppo. Ecco, poi non è tanto la benzina, quanto l'olio per gli sfogliatori costa un pacco di soldi. C'è un budget da rispettare, non ne posso, Giudizio, non faccio più buoni perché ho i buoni mensili dove per l'acquisto dei carburanti extra, perché le macchine hanno le carte di credito, però sono in grande difficoltà, infatti dicendo a Trucco Reale, come dice, se me la prestano, poi la restituisco il prossimo mese con il nuovo carico dei buoni, perché se no non riesco a lavorare. Non c'ho più niente, proprio erba, solo tagli erba, pulizia impianti perché non vogliono visti, cioè continua a salire questa erba che questa porcheria allucinante. Avanti, manco giù. Vuol dire che hai lavorato molto, se l'hai consumata la benzina, vuol dire che hai lavorato molto, e è un grillo, è d'ottobre. E come mai vi danno solamente questo limite? E se ce ne vuole un'altra, come mai non la passano qua? Non ce la passano, noi responsabili, ci abbiamo un budget da rispettare, solo che quest'anno ha piovuto tantissimo, quindi tagli dell'erba sono superiori a quelli dell'anno scorso. L'anno scorso di questo periodo erano già tutti diserbati gli impianti, ancora non ce la facciamo perché è tutto bagnato, se dai il diserbante tira più buio diserbante, anche il diserbante costa. I budget ci sono, poi adesso col passaggio in ENAS, l'ente non lo sa bene, l'ente ti dice, lei c'ha questo da rispettare, questo budget è il suo, ok, davvero a 100, perfetto, 110 io glielo posso dare, deve aspettare il prossimo mese, non posso esitare a maggio a tagliare l'erba, cosa vuole, trattoria da voi, perché non c'ho più buoni per poter acquistare il carburante, capito? Perciò, ma se aumenta il lavoro, è giusto che aumenti anche il budget della benzina? Come si fa? Che si sta? Uno non ha che la benzina che la mette, uno la usa solo per lavorare, e se non basta, non basta. Che si dice? Cosa vuol dire questo? No, mi sembra un po' una teoria un pochino strana. È come che a me mi dici, mi devi fare tipo un metro cubo di legname e me devi fare 15 finestre. No, io 15 finestre non te le posso fare da un metro cubo, perché ce ne sono 14. No, 15 mi devi fare, ma ce ne sono 14. È un po' lo stesso discorso qua. Boh, non riesco a entrare nell'ordine delle idee, capito? Bisogna entrare nell'ottica di Abanoa, capito? Il budget è quello, adesso dal 1 marzo ha preso in mano tutto l'ENAS, l'ente, l'ente acquedotti, quindi è pubblica al 100%, regionale, quindi metterà a disposizione più quattrini per poter più lasciarti lì. Ma sai quante volte benzina, adesso cosa faccio? Compro bidone della benzina del fornitore, che sono bidone da 20 litri, preparo già la miscela, ci metto direttamente l'olio dentro con il suo misurino per 20 litri e ce la preparo. Tante volte l'ho lasciata libera, benzina pura, e se l'hanno messa nelle macchine, il discorso è sempre quello, capito? Sì, ma sono d'accordo, però io non dico di che si deve sprecare, quello no, però quando ci vuole il materiale ci vuole, se no è inutile, come si fa? No, non è possibile, se io ti dico a te vai a casa e a fare questo lavoro e ci vuole prendere un pieno di benzina, non te ne posso dare tre quarti di serbatoio, se non va a piedi. No, comunque. A volte le imprese hanno certe pretese, non so con quale criterio facciano queste cose, questo non lo so, la verità. Comunque. E tu che vieni? Tutto il risparmio, soldi non ce n'è più in giro adesso ti contano tutto. Sì, ma infatti adesso questa è l'ultima volta che praticamente io seguirò questa storia delle pulizie, del ripristino per finire gli impianti, perché non mi interessa più, perché praticamente da maggio, no, mi pare no, la gara d'appalto va a settembre. A settembre ci sarà una gara d'appalto ci sarà un'impresa di giardinaggio, imprese di giardinaggio che partecipano alla gara d'appalto, tutto per potatura degli alberi, taglio d'erba, ripristino piazzali, aiuole e così via, capito? Quindi l'ente le dice, questa è la gara d'appalto, ci sono 500.000 euro all'anno, 300.000 euro all'anno per la pulizia di questi impianti, puoi partecipare? Sì, ecco, partecipi e ti avanti, punto e basta. Se ne spendi 310.000, no, sto facendo le importi, sono problemi tuoi, a noi non ti interessa, tu ci devi dare l'ordine alla pulizia degli impianti, finito, capito? Perché tu immaginati, Giulio, che l'azienda ha comprato 220 decespugliatori, alla fine dei discorsi, per farla molto breve, ce ne mancano 70 di decespugliatori. Non è possibile, secondo me è anche disorganizzazione, perché l'azienda, io la penso in questo modo, dovrebbe dire, tu Claudio mi inconsegna una di queste macchine e me la devi tenere conto. Solo che esclusivamente quando si guasta io ne rispondo, però quando tu vai in pensione, per dire, questa macchina deve rientrare, sei tu che me la devi risentire. Dunque non capisco come possano mancare tutte queste macchine, non è possibile. Allora c'è anche un'organizzazione un pochino così, un po' all'acqua di rose, non va bene. E se io mi ricordo che nel stabilimento, quando io lavoro nel stabilimento, il principale ti diceva tu hai 10 scalpelli, una tenaglia, due martelli, un pianletto, e quando te ne vai mi devi lasciare questi. Possono essere anche consumati gli scalpelli o il caso del pianletto, può essere anche consumato, però 10 te l'ho dato e 10 me lo devo restituire. Non mi puoi venire a dire me ne manca uno, me ne manca due, vedi, ma te non me l'hai messo, io te l'ho dato, se vuoi che te lo do nuovo dammi il vecchio. Io non riesco a capire questo discorso qua. Allora, questo è l'altro discorso. Il primo discorso dei cespugliatori è molto semplice. Allora, ogni squadra ha in dotazione due dei cespugliatori, due per ogni impianto, ok? Cosa succede? Che li usano, li lavano e poi li lasciano all'impianto. Allora io dico sempre, abbiamo un magazzino centrale, hai la macchina di servizio, cosa ti costa lavare il cespugliatore? Lo carichi in macchina, passi al sorso e lo metti nel magazzino centrale, c'è un magazzino centrale dove da lì parte tutto, quando ti serve vai e te lo riprendi, tanto è nominativo, perché ce l'ha la squadra che di Valledoria, ecco, la squadra di Valledoria c'ha due cespugliatori, quindi tu vai e te lo riprendi. Loro cosa fanno? Lo lasciano all'impianto, ascoltami, questo è successo l'estate scorsa, lo lasciano all'impianto, no? E loro stessi, dico loro stessi, abbiamo in generale, no? La squadra stessa fa un sistema un po' particolare, no? Se lo porta via uno, si tributa a casa, sì, dopo che sia io referente o che sia un altro, chiama referente e dice guarda che hanno aperto l'impianto, siccome è facilissimo entrare con gli impianti perché scavalchi il cancello, entri e le porte sono tutte in alluminio con la B, quindi lasciano la porta aperta, simulano questa cosa, ci portano via dei cespugliatori, ti dicevo, poi chiamano il referente, gli dicono che c'è stato un furto, quello giustamente va lì, verifica, intanto che manca il cespugliatore, poi diciamo, e lì se hanno preso questo, se hanno preso quell'altro, cattate, no? Dalla cassetta gli attrezzi se hanno preso quello e quell'altro, invece mancava già, perché poi ti dico l'altra, e simulando questa cosa, quello annota che nella squadra B del lotto numero 6 manca un vecchio spugliatore e lo passa all'azienda, ne manca uno. La matessi cosa invasi nella zona di Tempio, nella zona di Arbacchena, nella zona di Santa Teresa, mi capisci come spariscono queste cose? Io l'altro giorno ho lavorato 5 ore di mattina, 5 ore, anzi 4 ore, perché ho finito a mezzogiorno, per fare l'inventario, perché voleva l'inventario del materiale che c'è squadra per squadra, quindi le cassette in dotazione, delle cassette che ho dato io da lavoro con tutta l'attrezzatura, serie di chiavi dalla 8 alla 32, serie di cacciaviti dal più piccolo al più grande, di tutto e di più, in ogni cassetta manca la metà della cosa. Allora tu fai uno più uno. Non è possibile, non è possibile. E poi magari, io sono sempre dalla parte degli operai, però in questo caso qua è una vergogna, è veramente una vergogna, perché non è possibile che affettina. Così facendo distruggi anche l'azienda e poi ti ritrovi magari in certa integrazione o addirittura licenziato, perché l'azienda ha chiuso, perché l'ha chiuso? Perché hai collaborato anche tu a far chiudere quell'azienda, se fai così quell'azienda va di sotto, non è possibile, non è possibile, no, non va bene, assolutamente, guarda, non è... questo è un po' come la storia che abita uno, che abitava, che lavorava da sì, di fronte alla bottega abitava, questo volveva, dice io tutta la sera quando arrivo a casa, ecco il portabagagli e mi ritrovo, ho un sacco di cemento, ho una forma di formaggio, ho un pacco di bottiglie d'olio, ecco, cosa devo dire? Ma dice, chi a dire che tutte le sette risolve qualcosa e non sai chi ti ha messo la porta a bagaglio. Intanto la porta a bagaglio è chiuso, come hai detto. E se qualcuno la prende, se l'hanno aperto, perché non l'hai concesso tu, perché non hai stato scassolato per aprirlo, ma l'hai aperto tu con le tre chiavi, boh, e non c'è che fare, la, diciamo così, la disolazione di certi laboratori è incredibile veramente, non è possibile. Andate bene. Racconto una a Lenica. Questo tipo ogni volta alla sera prima di uscire, 10 minuti prima di uscire, usciva con una cartiera di erba. La guardia lo fermava e diceva: allora se faceva, mi sto portando un po' d'erba per i conigli a casa, e quello lo faceva andare. E rientrava senza nuda. Ogni giorno si è tutti tutto quanti carioli, a chi da pure hanno esacciato in pensione, gli ha detto, non è l'erba, non lo portava a casa, era la cariola. Oh, non è possibile, ragazzi. Vabbè che me ne hanno raccontato ancora di più grossi, addirittura che facevano uscire certi autobotti, grazie a con una sola moneta di accompagnamento, parte che uscendo una ne uscivano due. Era l'autobotti che è uscita senza dove finiva, boh. Boh, riprendi qua. E lì dentro, Benini, lì dentro tra lì e la Saras, ci ho fatto 2 anni alla Saras, a Cagliari, e quasi 4 anni, 3 anni e mezzo, lì dentro l'Enica, hanno giunto butte di curore, non frutti di me. È una cosa vergognosa, non si può parlare di queste cose. Vediamo chi è, se è un rompicoglioni non le risponde. Ecco, il mio collega, per carità, aspetta un attimo giù. Ok, riprendo io. Incredibile, vedi, non è possibile, ragazzi, però che debbano sentire certe cose. E poi si lamentano i lavoratori quando l'azienda chiude, è ovvio che chiude. Se comincia a rubare una o quattro, allora addio, poi l'azienda è chiaro che finisce sotto, perché avrei i guadagni si ritrovano i limiti, perché deve sempre rimpiazzare macchinari e cose varie, eccetera, eccetera, materiali, eccetera. No, non è possibile venire. Eppure queste cose si sentono e succedono, Me l'ha detto davvero prima, con me non mancava mai niente, quando c'era qualcosa da prendere, se qualcuno veniva me la chiedeva, se gliela faccio dare gliela davo, no? Adesso, esco con l'altro sempre con quella ditta lì, giù, una cassetta di riverbero, non va diviso di macchine di rotte. Figurati, non è possibile. Allora a questo punto, prima ricordo, quando esisteva la ditta Gavini, lì a Fosso della Roccia, no? Gavini era una grande industria di falegnameria, e per dire, dico, che so io, 50 porte a te, tanto per dire, a fare 50 porte di lavoro a me, no? Praticamente gli operai, cosa succedeva? Si mettevano in gara, perché? A chi finiva prima queste 50 porte? Perché? Perché il principale, quando entrava in ufficio, se finivi anche 10 minuti dopo, ti diceva, guarda che tu hai impiegato 10 minuti a fare 50 porte, sto parlando di 50 porte, non di una, perché di una testa io sto andato in bagno 2 volte più di lui per dire che ci ho impiegato 10 minuti di più a fare, no? Poi, e questo è un discorso, per dire, in 50 porte ci sono 50 serrature, no? Tanto per darti un'idea, allora 50 serrature e ci vogliono 100 vitti per avvitare la serratura alla porta. Allora se tu ne perdevi una di vite, dovevi andare lì e trovare che non mi mancano vite. E cosa mi hai fatto? E dove l'hai messa? E come me l'hai persa? Ammesso perché tu gli dicevi che l'avevi persa, no? E questo non per dire per i vitti. Quando pulivano la carta vetrata, ti diceva, ecco la carta vetrata, pronta. Quando l'hai consumata la carta vetrata, mi porti la vecchia e ti do la nuova. E me la devi far vedere consumata veramente. Anche tutta a pezzi, tu me la devi portare, perché se no lo prendevo un altro. Capito bene? Allora a questo punto l'azienda fa bene quando mette questa decisione qua, boh, non lo so io. Qua giù, quale stai dicendo? Quella che c'entrava dal parcheggio? No, più giù, dai, la cosa, faccio una voce, che non metto, no? Sì, c'entrava, c'era il parcheggio, o dietro il parcheggio, quel piazzale, diciamo, c'era quella specie capannone. Ah, sapevo trovarne prima, più immesso era prima del Grafini, capito? Non c'è presente dov'era questa falegnameria allora? La falegnameria di Grafini era una falegnameria di tantissimi anni che c'è stata lì in via Lombardo. Prima addirittura era dove c'è il Banco di Napoli, quella via nell'angolo tra quella via del Banco di Napoli, che poi c'è il Banco di Sardegna, mi sembra che sia quello che c'è lì adesso, e via Lombardo, poi era lì tanti anni fa. Poi si erano trasferiti giù nel fosso della roccia proprio, ma non nel fosso della roccia la parte alta dove stai dicendo tu, dove c'è il battesimo, no, nell'altro fosso della roccia più in basso, capito? Ma non ce l'ho presente, capito? Non mi viene, eh. Ho capito, per dirti, no, ecco com'è. Allora io a questo punto mi chiedo, ma allora l'azienda fa bene quando ti tratta così? Invece quando ho lavorato io no, era tutto libero, la verità, lì c'era lo scaffale per dire, mi servivo le vite, andavo e me le prendevo per dire, no, per mettere le serrature, quello che era, insomma, con il materiale che mi serviva, oppure chiamavo l'uomo di fatica, che ce n'erano tre, uno, c'erano tre, dicevo, tanda, Salvatore, portami per dire la catavetrata, mi portava la catavetrata, Salvatore la colla, e mi portava la colla, e invece lì tiravano tutto misurato, da Rovigna era tutto un altro discorso, ripeto, tanto è vero, gli operai di Rovigna più di una volta si sono fatti, perché erano diventati poi, sai, in quei certi stabilimenti, quando cominciano ad avere una settantina di operai, ci sono anche i ruffiani, no? Le lecchini, eccetera. Si guarda con il cagnesco, si guarda che mi ammazzando, si sta passando prima di me a finire le porte per dire no, o le finestre o quello che era, il lavoro che gli davo, perché lui aveva questa presunzione di fare questo gioco qua, dava 50 porte a uno e 50 porte all'altro per dire da fare, no? Oppure 50 finestre a uno e 50 finestre all'altro, chi faceva prima era visto meglio di quanto lo era visto sull'altro che arrivava dopo, magari anche solo dopo 10 minuti, capito come? Poi c'era anche un pochino di vigliaccheria a parte di operare, cosa facevano? Nel periodo di Giro d'Italia, no? Chi faceva prima fare le porte, allora gli altri operai prendevano e mettevano la bandiera rosa al vincitore, diciamo così, per morire, no? A quello che aveva fatto prima fare le porte. Oppure nel periodo del giro traccia mettevano la bandiera gialla. Questa c'era una specie di manicomio con lo stabilimento schifoso veramente o benissimo. Sì, non è solo lì, no, già da tutte le parti così. Ma così non va bene comunque, non va bene assolutamente. No, ma l'ho lavorato io allora, fate di caso, la verità. Fate di caso era sempre di Lombardo, un po' prima di via Fedoriano, dove c'era una volta la caserma della finanza, appena fuori più giù, un certo metro più giù, lì c'era lo stabilimento di fatti di casa, anche lì c'erano una settantina di operai, 13 ragazzi, 3 uomini di fatica, c'erano, addirittura c'era il meccanico per la manutenzione di tutti i macchinari, tutte queste cose qua, lì era tutto diverso il discorso, era tutto diverso. Erano, infatti il fatto che anche gli operai che ci hanno lavorato lì erano di gran lunga superiori a quelli che hanno lavorato da Raffini. Però Raffini era così, gli interessava fare soldi e basta, capito? E vabbè, dipende di bene. E tanto poi cosa ne hanno avuto quelli lì? Nulla, perché tanto il padrone pure è sempre la cascavola che guarda. Ma infatti, ma nemmeno l'azienda, che cosa aveva avuto poi l'azienda? Anche l'azienda poi aveva fallito per 1,5 miliardi, il Banco di Sardegna gli aveva sequestrato tutto, addirittura lo stabilimento gli aveva sequestrato, perché aveva avuto dei finanziamenti, non è riuscito a pagare, nonostante il suo modo di lavorare, e allora il Banco di Sardegna gli ha sequestrato tutto. È durato tantissimi anni, della verità, come azienda è durata tantissimi anni, anzi era la più forte che c'era stata, parlo di falegnameria, era la più forte, era ai tempi di quando c'era il sindaco Pieroni, lui e il Gavrini, era sempre a braccetto con il sindaco Pieroni, oppure con il presidente della provincia, sempre insieme erano, sai, si prendeva tutto. tutti gli appalti si prendeva lui di tutti i lavori di queste cose qua, sia della provincia che del comune e del tribunale, tutte queste cose qua, se le prendeva tutti lui, se le prendeva. Dunque ha lavorato forte, ma veramente forte. Nonostante tutto, poi alla fine il Banco di Sardegna ha mandato il sequestro per un miliardo e mezzo di debiti e gli ha sequestrato addirittura il capannone intero. Rieccomi, un altro passaggio, poi vi lascio e vado a sistemarmi, che io ci sono riuscito a dire qua a travagliare, Giulia. Tanto per cambiare, no? Come mai? Mi prendi qua. Vabbè, c'ho anche domani mattina, se ti può interessare. Perciò non ci sono problemi. No, ma vado volentieri, io non lavoro, mi piace, non si appare piccolo. Domattina mi sono sistemato un po' di cose, poi c'era un extra stradale, un pezzo di scavretto che dovevano fare, hanno voluto un referente, quindi sono rimasto io, sono entrato alle 5. E domani mi faccio la reperibilità, però esco, mi faccio un controllo, un direttivo, mi prendo un caffè di Isola Rossa, mi firmo i registri e me ne rientro. È una passeggiatina tutte le domeniche, ormai mi do per uscire. Dai, ok, vi lascio perché vado a farmi la barba, a sistemarmi, che mi sono riposato un'oretta, non ho giurato molto. Se ci siete volentieri ci sentiamo dopo. Io sto qua su 10 Giulio, avete anche gli altri, perché su 5 c'è troppo QRM. Poi da qua su, da quando ho agganciato la manta, vado di nuovo. Sento un bel camionista, anche lontananza, capito? Quindi non mi fa disturbare. E allora mi sono spostato un po' qua al canale 10. Già va bene lo stesso. Ho visto che già entrano tutti lo stesso, quindi non c'è problema. Va bene. Un abbraccio. Ciao Giulio, ciao Benito. Se ci siete, ci sentiamo dopo. Rimango qua in ascolto. Non spengo niente, tutto acceso. Vai Benito. Ciao Fabio, ciao, là, buon proseguo di serata, se no a dopo, non lo so io perché mi sa che dopo usciamo, dobbiamo andare a fare una visita, non lo so. Ok, riprendo io, ciao qua, alla prossima, dai, grazie per la piccola tentata, poi eventualmente se capita ci sentiamo più tardi. D'accordo, attendi pure perché quando bisogna fare le cose bisogna farle basta. La radio la lasciamo un pochino indietro in questi casi qua. Ciao qua di nuovo, alle prossime. E così è venire, d'altronde, ripeto, alle volte sì, ci sono dei principali che sono tremendi, che trattano male i dipendenti, però guarda, certi dipendenti un certo trattamento alle volte se lo meritano, proprio per tutte le cose che stavo dicendo poc'anzi. No, non è possibile, che io a te ti consegno dell'attrezzatura, ragazzi, e tu me la fai sparire, no, non va bene, no. Un giorno vado in una campagna, vado via, nella zona di Gabulazzi, stavo facendo un lavoro lì, e mi fa, dice, adesso vieni che ti faccio vedere la mia piccola officina. Boh, vabbò, quindi tu vuoi andare in un'officina, lavoro in campagna. Cioè, lavorare in campagna sì, perché nella sua campagna, però faceva il muratore, lo faceva il tonacchino, a dire la verità, faceva. Prende, mi porta dietro la casa e c'era una di quelle cabine in laviera, no? Fatemi questa via la mia piccola officina. Che città? Entra dentro, non era poco di materiale, di attrezzatura. Tu non hai idea dell'attrezzatura che c'era. Fatemi, come fai? Cosa ne fai di tutta questa attrezzatura? Ogni tanto io ce ne compro una di cosa, la metto qua, quando mi serve ce l'ho. Io naturalmente non ho mangiato la Puglia, è chiaro. Ho detto, che tu me la bella può comprare, figurati un po' se lui è in grado di comprare tutta questa attrezzatura. Allora uno di quelli che lavorava nei cantieri ogni tanto faceva sparire qualche attrezzo, capito? Addirittura era un moto piccolo di quelli industriali o beni, ti puoi immaginare. Poi non ne parliamo, no, non di quelli manuali, no, di chi è fatto una strada, di quelli. Dimmi tu questo, come ha fatto a farci un'attrezzatura del genere? Perché l'ha rubato nel cantiere dove ha lavorato, o meglio nel cantiere dove ha lavorato. Chi è che chiama sul canale 10? Ma sono Giulio, sì, sei bassissimo Giulio, lo capisco molto. Vediamo se ti sente benito, lo senti. Lo sento, però di radio lo sento saturo. Bianco, un attimo, mi stanno bagnando il cane, vado a vedere. E vabbè. Attento, se sento un giro, sto molto basso in radio, no? Non capisco molto di quello che dice. Dipende, vediamo un po' se riesco a tirarti fuori. Sei nella Maria del Sorso, così hai detto, nella Maria del Sorso. Ma un genio sì. Nella Maria del Sorso tagliando gli alberi, mi sembra di aver capito. Boh, no. È un mega di alberi, boh, una cosa del genere. Sì, ma non ho capito chi sei, sì, ma è un genio sì. È un genio, come è così basso? Ah, vabbè, se sei sotto gli alberi, magari l'antenna. Ma con quale passi oggi? Ho capito oggi. Ho capito. Perché ti sento molto basso, capito? Sto facendo molta fatica a sentire la radio. Cioè, il sentito non è altro, va bene, d'accordo. Però la radio è proprio quasi a livello terra-terra, veramente. Vabbè, comunque, qualcosina già riesco a capire. Ma adesso già rientra Benito tra un po', dai, così lui ci sente, perché lui è lì in zona. Sai che lui ci sente sicuramente meglio di me. Riprendi oggi. Sono entrato. Oggi, guarda, lo senti, Eugenio, Benì, che deve essere lì nella zona di Bracamora, di Sosso, dice che sotto gli alberi, boh, non ho capito molto bene, perché mi arriva troppo basso, tu dovresti sentire bene. Ehi, lo sento bene, avanti oggi. Io sono, come ti posso dire, il lineare abbastanza certo petti, però adesso ti sei abbastanza molto. Io sono più indietro, io sono un mio alla sesto pettine, capito? Però sono al discorso. E che antenna stai usando oggi? Ho capito qual è l'apparato, da 48 plus. Microfonino da adattarmi, non ne hai a spingere un po'. Ho detto, è il microfono amplificato, non ne hai da provare, quello che c'avevi l'altra volta. Ho capito quale c'hai, allora ci vuole qualche cosa da spingere, capito, qualche cosa aggiuntiva da spingere, ho capito qual è, quello che si cambia il canale direttamente dal microfono, quello lì è, quello nero se non sbaglio, grigio è, ho capito che è nero, dai, sei molto più avanti da chi capiterita, perché ti stai abbassando di molto, è positivo, dai. Se non sai qual è, metti fino a punta bianca dovresti, ti dovrei sentire. Capito, Eugenio? Benito, ti devo lasciare, dai. Ti saluto, bene, dai. Ci sentiamo nel prossimo. Ma io non lo sento più, Eugenio, non lo sento più. Eugenio, ti devo lasciare, dai, quando ti ho fatto. Ci sentiamo un altro momento. Ciao, Eugenio, grazie per la chiacchierata. Alla prossima, dai, riprendi. Sentito, vai, Eugenio. Eugenio, Giulio ti ha salutato. Ecco. Anche io adesso ti sto perdendo, dai. Ti saluto anche io, dai. Giulio ti saluta, Eugenio. Alla prossima. Ok, ti ringrazio per il ponte. Beh, dai, anche io devo chiudere. Faccio entrare il break e poi intanto lo saluto a Elio, mi dovrebbe essere. Ciao Elio. Sto chiudendo e devo scendere giù, ci sentiamo le prossime. Ciao Elio, ciao Benito, avanti il break, ti lascio con Benito, Elio, avanti. Tappa, ciao, mi hai sentito, mi hai ascoltato. E tu, mi sento a Giulio adesso che ti salutiamo. Tutto bene? Sì, tutto bene con Elio, tutto alla grande. Sì, devo abbandonare la frequenza perché devo scendere giù in tavernetta. Che mi hanno chiamato. Ti lascio insieme a Benito che Modula, stava modulando insieme a me, poi c'è anche Eugenio che ci sta dirigendo sulla strada per Cacassado, eccetera, ma io non lo sentivo più, l'ho sentito per un attimo quando era tra gli alberi lì nella marina più o meno, ma poi non l'ho più sentito. Ok, io ci sentiamo le prossime, ti lascio con Benito. Avanti Benito, per Elio, ciao Benito, ciao Elio, riprendi Benito. Non l'ho sentito io Elio, non l'ho sentito. Se lui mi ascolta, buonasera, non ti ascolto io. Ciao giù. Ok, adesso passo la porta io, vediamo un po' se ti ha sentito. Avanti Elio, l'ha sentito Benito? Cappa, sì, l'ho sentito, aspetta che... Benito, adesso mi ascolti? quindi non ho sentito aereo, no? Ed è più, ma le stanno usando la usini, forse per quello che non lo sente. E a te ti sente però, a te ti sente, o benissimo, riprendi tu. Capo, non mi spiace, io non riesco a sentirlo, eppure il QRM è basso, il QRM è molto basso, ma non riesco a tirarlo fuori, se non può fare qualcosa mi dispiace. Registrato a voi. Capito, Elio, hai copiato quello che ha detto Benito. Riprendi a fantasia un break, vai, io vi saluto di nuovo e ci sentiamo alle prossime. Riprendi ancora Elio. Vedi a capo, non ti preoccupare, Gira. Adesso vedo se riesco a cagare questa saponettina. Ciao. Ok, allora faccio vedere avanti il break. Avanti il break, c'è Benito con te, ti lascio con lui e poi c'è Elio, la Usini. E vedete un po' se riuscite a mettervi in contatto. Di voi, avanti il break. Ciao Giulio, a dopo. Ciao ancora, ci sentiamo più tardi. Ciao, vedi, rientro dopo. Ok, d'accordo qua. Avanti Giulio, puoi pagare. Ok, sì, per salutarti ho perché devo chiudere, dai, ci sentiamo più un pochino più là, adesso devo scendere giù per il momento. Ciao a tutti, ci sentiamo. Ripeto ancora tu Franco, c'è Benito, ti lascio con Benito e con Elio da Usini. In cui se c'è anche Claudio, se vuoi puoi salutarlo perché ancora l'ascolto, ma sta uscendo comunque, ti annuncio che anche lui sta abbandonando la frequenza perché si sta preparando per uscire. Però ti rilascio il microfono almeno per salutarlo, ma che fa? Ciao, ci sentiamo, ciao a tutti. No, scritto un'oretta fa di passare a Taserba, da rimane maggio 10 scombato tutta la portata sotto gli alberi. La settimana scorsa ho fatto con molto coltivatore con l'altro trattatore, non ho finito tutto oggi da fare. Adesso lì si comincia a sollevarsi l'erba, comincia. L'ho tagliata la settimana scorsa, l'ho tagliata, è torrata, da ieri sono mi facendo, mi è tornata a restare, cioè una ghida, ogni ghida la di qua. Che ti vuoi prendere? Sai io prima, e tu non hai problemi, ci pensano loro su questo. Ho due, tre pecore, guarda te lo raggiano omicidiale. Sì, già lo so, già sarebbe andato bene già, le pecore, ma tu sai che non ti vai. Cosa è vero già? No, non fa qua, con i cani e cose. No, non fa perché è poi avvicinato, già ci stiamo, ogni tanto ne portano le pecore qua vicino, il pastore c'è più giù, è capito? È un casino vicino, in carità. E vabbè, oh, vicino a te, la comune è importante, non è stato più. Buonasera. Saluto. Mucco. Moncaruro, ciao Franco, ciao Benito, vai, mi stavo facendo la barba, ero qua comunque, buonasera a tutti e due, ciao anche Luca, ciao a Elio e io non sento a Eugenio, non arrivi il bannù da oggi. Ehi hey, ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato. Ciao, avanti, Benito. Ciao Claudio, ciao anche a Luca, ben entrato. Lo prendi Luca. Ciao a tutti, ciao Claudio, Benito, sono Evo, c'è anche Giulio, Franco, se mi ascolti, avanti Franco, riprendi. Ehi capo, ciao Luca, beh, non so se avevo sentito prima, scusa, poi un po' bacino, sì, un po' tagliato, forse per quello. Positivo, anche tu dai, purtroppo anche il canale, forse QRM, boh. Ma comunque già riesco a tirarti fuori, sempre se non si mette in mezzo qualche straniero. Tu benino, mi stai ascoltando bene? Io bene, sempre sento segnale, la radio è sempre la stessa. Così anche ti ascoltano bene oggi, di solito un po' bassino. Claudio, non ne parliamo, ti sono facendo il tutto. E io ho commutato, io sono avevo 140 libero, 20 watt, non è toccato, nuovo nuovo. Allora se attacco il 430 ti faccio dire che è sordo. Questo è il 140 che ogni tanto è comodo, giusto per farlo andare. KK, vediamo se è rimasto Elio. Elio, ci sei? Elia, un attimino che sto provando una cosa. Va bene, forse con Benito non ti ascolti tu, Benito è giù alla Marina Risorse, non è che è facile arrivarci, ma dove sei tu, molto molto difficile, tu lo senti, ma da lì devi superare a me tutto Sassari e arrivare in quella zona, è molto difficile arrivare a Benito da lì, Ok, avanti Marco Franco, hai detto che ti sto arrivando bene, sì, questo è Vergine Mi, 140, nuovo nuovo, Vergine Vergine. Come Luca, Luca è bassino, basso basso basso, e invece tu che sei abbastanza tu, Giulio, tutti gli altri lì arrivano bene. Allora, mi boss, attenzione, qui è di tutto, ciao Massimiliano, buonasera. No, ma questo 140 veramente rimango perplesso, perché non è toccato, c'è una bellissima modulazione, abbastanza forte con l'MC60, non ha giocato nulla, no, vabbè. Ok, ho agganciato la manta, ho rifatto la manta da nuova, ho messo i radiali nuovi in alluminio, tutta ripristinata, sollevata mi pare sia a 4 metri adesso, prima usavo la direttiva e quindi vi attenuava molto il segnale, capito? Va bene, avanti Massimiliano, buonasera, ben entrato. Marecco! Positivo, guarda. Ciao a tutta la ruota, non so chi ci ha sentito, Franco, Claudio e Luca, poi quel tanto Blecco mi è sembrato proprio l'ultimo. Poi non so ancora chi c'è a ruota, guarda. Claudio, rilancia tu qualcuno perché io non so chi c'è, avanti. Allora, te lo dico io, ci sono io, c'è Elio da Usini, c'è Luca Belmonte, c'è Benito e c'è Franco da Sorsi. Adesso vi lancio il microfono a Gianni Doppio Rum, avanti. Avanti Breck. Avanti Brecco. Cappa, buonasera a tutti, Doppio Rum che vi super cordializza, cambio. Molto ci voleva rispondere. Buonasera Gianni, ben entrato. Microfono per te, Benito, fai girare, gatto. Gatto, ciao Gianni, ben entrato. Ciao anche a Massimiliano, buonasera, ben entrato anche a te. Mi prendi, Fra. Ciao Massimiliano, buonasera, e ciao anche a Doppio Rum. Mi ha ascoltato anche a Doppio Rum. A quanto pare è in giro le macchine. Non è a casa. Niente, è tutto diverso a segnale. Avanti, buongiorno. Di nome e di fatto. Buonasera a tutti, ciao Benito, Franco, Gianni, Luca e Elio. Non so ancora Claudio la cattedra. Ok. Vediamo un po', rilanciamo a Elio che ancora non riesco a copiare bene la sua voce, dai. Avanti Elio. Elio adesso sorprese non c'è, dai. Ok, Luca. Ciao Massimiliano, salutoni, ciao Gianni, avanti Clarifi. Guarda, sì, no, Elio ha detto un attimino di bianco che stava cambiando radio, mi pare, una cosa del genere, ho sentito. Ok, molto bene, Gianni avanti, dove sei? Mi sto andando a comprarmi quel mouse, sto andando da coso, da Media World. Allora, se ce l'hanno me lo prendo, va. Che si è rotto, dopo un po' di anni si è rotto. Beh, se non ce li hanno loro, i mouse che ce li hanno. Giustamente già ce li hanno loro, non c'è problema. Ok, va bene, vai Massimiliano. Poi a Claudio, un attimino, vai, che riprendo subito. Devo fare una cosettina, che mi sono impiccato, riprendo dopo. Oh già, dimmi tu. Ma con il filo senza. Il filo, col filo ma di quelli a fibra ottica. Non lo buttare, non lo si può riparare, io ho riparato il mio non funzionava, ci tu bussano, non funziona, cosa ho fatto? Ho preso e gli ho tagliato il filo proprio lì dove l'ingresso, proprio all'ingresso lì, tagliato, ovviamente l'ho dovuto aprire, gli ho fatto già una saldatura nuova, sta sempre funzionando, cioè la ripresa a funzionare. Ma il mio funziona, non funziona la rotellina che fa girare le pagine, capito? C'è proprio sballata quella rotellina lì, gira a vuoto. E bisogna aprirlo, ma ce l'ho qualche pezzo comunque, ce l'ho. Perché i pezzi si possono smontare quelli, no? È tipo un... la forma di un... aiutami, di un... ma... fancuffia, di un trimmerino. Vabbè dai, oramai ci stai di più a cercare pezzi, a fare, che se fosse a due lire. Vabbè, comunque, finché si può recuperare. Vabbè, ha risolto il computer, fatto? No, è sempre così, sempre Windows. Beh, lo sai, già, io ne ho due computer, no? Prima ne avevo qualcuno in più. E praticamente ho questo PC lento, aprire internet ci metteva mezz'ora, te lo giuro, ma è lento. Ci sono buste una cosa, l'ho fatto, poi l'ho smontato e gli ho messo un processore leggermente più grande. Gli ho cambiato la pasta termica, capito? E l'ho ripiazzato tutto quanto, a solito ci mette ad aprire internet, sarà una cavolata. 3 secondi. Ecco, va bene. E ho risolto il problema, avanti Becchio. Gatta, sono entrato. Ciao Claudio, ciao a tutti quanti. Elio! Chi sei? Gianni Doppio Rum in barra mobile, ciao! tu che non mi sentivi già. No, negativo. Io ti sento. Ti sento anche abbastanza a me, ti capisco, Sto andando verso Città Mercato, sono sulla Brittella. K. No, non capivo chi è che non riusciva a sentirmi, verso Castel Sabro forse. Chi era già? Benito, ma non ti sento Benito, è impossibile che ti senta. Avanti Benito. Sì, capo, dai, no, non lo sento, guardate anche poco fa. Se non mette un po' di vitamine non lo sento. Adesso ti senti Benito? Sì, che sto facendo male, ma mi ascolti a meglio. Quindi aspetta. Ora Vigilio, io non ti capisco neanche io, Emilio, inutilmente, non ci puoi mai arrivare da Benito, non ci puoi mai arrivare perché in una posizione Benito è sotto la Budi Budi, proprio sai cosa vuol dire sotto la Budi Budi, è a livello stradale della Budi Budi, a livello del mare, ed è verso la marina di Sorso, è impossibile arrivarci dove sei tu. Ho capito, andrà bene. Anda male, alta gli antenna, alta la barba, alta di Olimpico, alta la desimetri, esci da quella montagnetta, fai qualcosa, qua c'è il segnalone, non c'è problema, però devi superare Sassoli, se no è un casino, è proprio bassa sicuramente con l'antenna. Ok, avanti Franco, lo senti Elio? Franco ha fatto un attimo di bianco, vedi che sento il bip. E se è vicino al cimitero lui a Usi? No, negativo, non sono vicino al cimitero. Segna molto che. Vabbè dai, io un attimo di QRX ascolto per me, dai, che sto andando a comprare quella roba, anzi faccio QRX e poi riprendo. Cazzo, vicino al cimitero sì, no? Ah, negativo. Porca delle balle. Cazzo, io che devo cadere tutti gli uomini. No, sono all'ingresso di Usini. L'ingresso di Usini è benissimo, capito? L'ingresso di... Ma c'è l'antenna bassa. Qua è 9:30, ma è davanti a me, capito? Non ha ostacoli, c'è un segnalone. Esce molto bene, qua io lo sento benissimo, però arrivare da te è un problema. Quando c'è QRM è benissimo, non sente manco a noi, figurati. Ma entro Sassari, è un casino, a livello del mare, lui è basso lì, molto aperto per la costa, però se non sei così in alto come sono io, da 20 anni che è aperto, giuro ai punti, poi arriva molto bene ai punti, quelle zone lì, però io è un poco aperto, è un casino arrivare da Benito. Casino. E la Boiazzami che si antenna per lì, l'ho vista l'altro giorno, sempre più bassa, ma un pezzo mi ha segato di dubbio. Attenzione, ecco, è registrato, a me stai dicendo qua. Eia, mila tigre, sì, ho visto che mi sembra più bassa, era più alta prima. No, anzi, l'ho sollevata, un altro l'ho sollevata, prima era più bassa, era a livello dell'albero. Adesso lo sai. Due corso. 5 metri fuori dall'albero adesso. Avanti gentile, vabbè Sandro. Ehi Carpa, ciao, buonasera. No, volevo sentire un attimo, ciao Claudio. Claudio, controllami il mio rapporto perché a occhio qua c'è qualcosa che non funziona. Il tuo rapporto qua è sempre quello, 9P5 Radio 5. E secondo te cos'è che non c'è, che non funziona? La ricezione, hai segnali bassi. I segnali sono normali, non sta uscendo sta cosa, altrimenti trovo lo smitter portante muta, non si muove, picchi di modulazione 2-3. E ci avrai qualcosa inserita, Sandro, c'è qualcosa inserita sicuramente, perché il segnale è il tuo qua, perlomeno da me, poi non lo so, guarda se c'è qualcosa inserita che hai inserito magari facendo delle prove, non lo so. Oh, grazie. Oh, ciao a tutti, dai, che mi è arrivata gente che devo mollare. Ci sentiamo, ciao a tutti, dai, riprendi qua. Ciao. ciao Fra, ci sentiamo, stammi bene, buon fine serata, dai, a domani, se coincide. Vediamo un attimino Sandro, allora questa prova, vediamo un po' Sandro. Aspetta un attimo, ciao Franco, ci sentiamo alle prossime. Ciao Franco. Ah, eccolo. Eccolo che cos'era che non andava. Vedi un po' Claudio. Sì, va bene, va bene, va bene. Controlla tu se i picchi sono giusti qua, il segnale è tuo, non ne hai problemi qua. Benito, lo senti bene Alessandro, sì. 9:10, Claudio 5. Leggermente, la radio era leggermente più spinta prima. No, è il caso. È il capo, dai. C'ho il capo, sono collegato al computer, è il capo, il cazzo, dai. C'è qualcosa che non va. Ah, se sei nei remoti, allora può ci sia qualche connessione che non sta andando, possiamo dire diretto, allora controlla lì, che c'è magari qualcosa nel set, sicuramente, va bene. Quindi Franco è andato via, Gianni è sceso, Luca riprende, allora vai. Luca, batte su Luca, mi ha dato già via. Avanti, guarda la Gabriella, vai Elio. Ma io lo sento bene, l'amico che è lì da quelle parti che non sento, cioè che lui non mi sente, non mi ricordo mai il nome. No, non so cosa dire. Devo stirare su ogni volta dagli altri termini. Allora Elio, sono quelle piccolette che poi ti rendi conto che servono, perché come ricezione sicuramente ce l'hai, sicuramente, se lo senti, però Benito ha una posizione molto molto particolare. In certe circostanze ha problemi a ascoltare anche altre persone. Quindi per quello che stai dicendo, perché usi non è basso, è abbastanza alto, però evidentemente c'è qualche collinetta che ti va a fastidio, quindi se tu magari riesci a superare la collinetta tirando sull'antenna, risolvi il problema, capito? Claudio, dimmi allora un attimo in FM a vedere. Prova ad andare in FM a vedere se ti sente benito. cosa devi fare? Tira su quell'antenna, tira su il più che puoi, o vedrai che qualche risultato lo ottieni sicuramente. Infatti è quello che volevo fare, almeno di altri 3 metri, perché adesso è all'incirca 2,5 metri, 3 metri dal tetto. Un po' più basso, una per irradiare almeno al 100%, perché c'è 4 metri dal piano dal tetto, almeno 4 metri, quindi se la tiri su di altri 2-3 metri, certo, certo che qualcosa riesci a recuperare, sicuramente, guarda, ne sono più che convinto. Avanti Luca, ci sei o non ci sei, o ti fai? Non c'è, vai tu, vieni pensando. Volevo sapere che tre giorni stava andando, perché io c'ero da poco a Usini, e l'antenna nuova, ho visto quella che porta vicino al cimitero, in quella strada lì, capito? No, no, lui è all'ingresso di Usini, così è io. No, quella strada che dice lui vicino al cimitero non c'è più, ce l'ho io. C'è più quell'antenna vicino al cimitero, l'ha presa lui quell'antenna, l'ha comprata da lui, tutto l'ha preso, non c'è più niente quello di lì. Perché quell'antenna era abbastanza nuova, quella che ho visto io. Poi non c'è più quell'antenna, io ti sto parlando una settimana fa, neanche di più. No, è più di una settimana. Poi... Hola. Ok, scusate un attimino. Scusate un attimino, però io, signori, vado a mettermi sotto la luce, dai. Se ci siete, frate. Poi io sono appena uscito, sono lì, dai, va bene, piena libertà, ricordati di cercare sempre quella cosa che ti ho chiesto, guarda dentro gli armadi, guarda sotto gli armadi, guarda sotto il letto, capito? Guarda anche sotto il letto, ma procurami quella cosa che mi serve, ci sentiamo dopo. Ehi, papà, dai, va bene, dai, vediamo un po', magari devo vedere un po'. Vediamo un attimino, va bene? Lo sa, cercando, se trovi una TV50, serve a me. E all'anima, a T250, no, per dirti la verità, a T250 non ne ho mai avuto, quindi sono sicuro che non lo trovo. Peccato, gacca, non è andata. Da fatto la battuta che ve lo meglio, ma non te lo trovo. Guarda che ce n'era uno su internet, compra subito 220 euro, è un buon prezzo, è un buon prezzo, ce n'era uno l'altro giorno sopra una scatola, invece era nuovo, compra subito 220 euro, spedizione gratuita. Peccato, la giornata avrei preso, non ce l'ho internet, eh vabbè, basta cantare benissimo, basta cantare e l'avremmo ordinato lo stesso, adesso bisogna andare a vedere se c'è ancora, non lo so, non c'era manco un'offerta quando l'ho visto io, capito? Quindi 220 euro era nuovo, aveva il prezzo ottimo, perché io ho pagato più di 300 euro, 320 euro mi è venuto, più 20 euro spese di spedizione, 3,40, quindi quello compra subito era ottimo, il prezzo che manca al 140, con quello è micidiale, cioè tutto sotto controllo, la radio è perfetta anche perché c'è il sistema remoto, quindi attacchi il suo cavettino e fai di tutto di più, capito? Va bene. Avanti, allora ciao Sandro, ci sentiamo dopo, buona doccia, Luca non riprende, io riprendi tu, vai. Vabbè, non sto pensando a che tempo metterci, perché quello che c'è adesso è grosso, quindi ci devo mettere un altro più grosso, almeno, e partire da sotto, sì. Dai, da Fusaro ti prendi il piantone da 60, mi pare che sia, il piantone da 60, e le metti quello da 55, mi pare che sia dentro, da 58, che è quello che c'è tu, ti prendi un piantone da 60, le dici, capito? Ci metti, cambi il piantone, innetti la l'altro quello che c'hai adesso attaccato, e poi vai su, praticamente recuperi 3 metri. Eh sì. Quanto è questo piantone? Da 3 metri? Sempre da 2 metri sono i telescopici, sono 2, 4, 6, sono sempre 3 pali da 2 metri, capito? Ah, se c'è quello telescopico, no, io lo sto mettendo fisso, quello che c'è adesso è un tubo fisso di 3 metri. E ce lo lasci, da quant'è quello a 3 metri? Minimo sarà 60. Ma entra diretto nell'antenna? Ah no, non ce l'hai, tu c'hai i cavallotti in quell'antenna. Infatti, si aggancia poi con i cavallotti al lato, capito, del palo. Invece il palo è 3 metri, scende giù, e sta fatto giù, è un 60, è buono. E almeno di spessore 8 mm, 9 mm, se non di più. Cos'è, il tubo innocenti? Sì, tipo innocenti, però zingato, è un bel palo. Allora, è da 2 pollici quello lì. Quello lì è da 2 pollici. Sicuramente è da 2 pollici. Allora, tu ti prendi un piantone da 2 pollici e mezzo, lì c'è Fusaro. Quindi te lo dà un pochino più largo. Un telescopico, un piantone, portalo telescopico, solo il piantone che ci abbia i fori che tu stringi. Cosa fai? Ci metti e quella lì lo spacchi il tubo. Ti attacchi il piantone allo staffa, inserisci quell'altro tubo dentro e tiri su. Ah, ho capito. Ma poi ci vogliono anche tirati sicuramente. Con quel tubo lì, se c'hai taffe buone, tiranti, io non ne ho tiranti, perché c'ho il piantone da 60 e poi un tubo zingato d'acqua da 2 pollici dentro il piantone, capito? E sono a 40 metri d'altezza, l'antenna è alta 4 metri, il tubo è alta 4 metri, perché sono 2 più 2, quindi fate il conto, non ne ho io di... E cosa mi fai di tiranti? I tiranti servono quando le taffe sono deboli, quando il tubo è debole. Ma se c'hai un tubo di quelle dimensioni lì, da 8 mm e le taffe sono buone, cosa te ne fai di tiranti? No, vabbè, le taffe se sai come sono, non sono quelle con i buchi, no? Ho fatto un buco praticamente nel blocchetto che sono da 40. E praticamente si è fatto dietro il muro e fuori esce a tipo a U il ferro e lo aggancia, capito? Però è bloccato da dentro la casa. Poi vai tranquillo, non ce ne voglio tiranti, sì, passante l'hai fatto, buono, ottimo sistema, va bene. Tu ti compri un tubo, se no te ne tagli un pezzettino, non so se ce l'hai di quello lì col seghetto, con la molettina, ma un pezzettino a 10 cm, vai da Fusaro e gli dici dammi un piantone che entri dentro questo tubo, e lui ti dà il piantone, ci inserisci quello lì dentro, no? E poi tiri su, hai già recuperato quasi 3 metri. Cappa. Sì, devo fare una cosa del genere. Perché questo qua è un bel tubo. Se non che c'entro l'altro dentro questo, capito? Anche se c'hai l'altro più piccolo che entri dentro, a incasso, e poi le contrappano, le fai un foro e glielo stringi con un bullone passante da 8, da 12, sei a cavallo lo stesso, cosa fa? Infatti farò così, questa settimana mi organizzo e la tiro su, e via, fai riprendere. Vai benissimo. Ehi, dai, che anche io vado e mi faccio una bella doccetta, luce a dove, anche troppo. Tu stavi rasando erba, così è. E allora, rasando erba, alcuni ho finito, allora ho visto questo fine settimana come si deve, cioè, è già domani, e poi è già finito. Ti lascio, dai, buon fine serata, buona domenica, delle palme, se non ci sentiamo, salutami anche l'altro amico. Fatto, non mi dire, domani è domenica delle palme. Domani domenica la prossima domenica è Pasqua e Pasquetta. Io vabbè, non ho problemi, intanto c'è quello valiente, sia Pasqua e Pasquetta. No, domenica la Palma ho avuto sempre l'incubo, capito? Vorrei che rompono le palle alle 8 del mattino questi ragazzi vendendo la Palma, ragazzi. Via, io gliela sto bene così. Ah, ti si fate in tutti i condomini a rompere il ballo la domenica mattina, visto prima andano in 10, alla 10 e vengono a fare i condomini. Mamma, vabbè, io sono le 10 alle 7 domani mattina, ma mia moglie tanto non apre a nessuno, manco per le balle. Oh. Ma se c'è che venivo dal panetto? No, no, ma non apre nessuno mia moglie, assolutamente, né mia moglie e mia figlia, tassativamente, la porta è chiusa dall'interno, no? Da fuori non si può aprire, quindi no, non apre nessuno, anche perché c'è in giro un po' di gente che sta facendo veramente di tutto e di più, qua in questa zona stanno aprendo appartamenti a tutto andare. Poi non credo più che entra, assolutamente, assolutamente. La cosa che qua mi preoccupa è farci entrare la radio, e che soldi già non ne trovano, tranquilli. Ora neanche, perché sono costruiti diversamente, quindi. Mi preoccupano le radio, vedi, capito? Vabbè, quello già è vero, ma già non entrano, con la porta così grossa che c'hai, non entrano. È un po' male, diventa. Con i cilindri un po' più particolare, sembra una porta normale ma non lo è. Ok, va bene, ti lascio allora, dai, piena libertà, vieni, ci sentiamo dopo, se coincide, se no fate la buona e alle prossime. Quando vuoi, ricordati, io sono sempre qua, mi fa piacere se passi a trovarmi. Ecco, allora, se coincide qualche giorno, non già l'ho visto io sempre di cosa di fa per i nocchi. Ti saluto là, di nuovo buona domenica anche all'amico, ciao, buona serata. Io ti saluto benissimo, quando vuoi sale io ti faccio delle novità d'ingresso, i nuovi acquisti, se tu ti piace vedere quei bestioni giganti da 48 kg a 50 kg. Oh, nuovi acquisti, allora vai, troviamo il tempo. Vabbè, ho preso lo Fiat 1000, il millone, il cosiddetto millone, la più grande macchina che ha fatto la Iaeso, più grande del 7008, fatelo buono. Che colore è? Azzurra? No, è tutta nera con display arancione. Bella! Mostra, vedi, 200 watt a MOSFET, filtri meccanici e quattro termopattati, ma è una bestia, vieni da vedere, io non l'avevo mai vista, mi piace molto 7008 come grandezza, perché è una grande macchina, ma questa è una cosa allucinante, si prende quasi tutto il piano sopra, ho dovuto togliere il DS700 e metterlo dall'altra parte, perché ci sta solo quello, il 780 e il 7004, l'altro ho dovuto spostare. Va bene, quando vuoi vieni, così te lo faccio vedere in funzione. Ciao, un abbraccio e saluti a casa, K. Tutto ricambiato al 100, ciao ciao. Ciao Benigno, alle prossime, vai Elio. Ciao Benigno, ci sentiamo. Oh, l'ho sentito. Hai sentito? Mamma mia che vento. Ecco, ciao, ci sentiamo. Mi senti adesso? Mamma mia, ti sento, sì, Santiago 5, il Correm è lì. Va bene, dai, va bene, riprendi. Ciao. Non sento più. Ho sentito il doppio rum che chiama, cambio. E la ciao già anche a te. Oh, vedi, ci sentiamo, dai. Se ne andò via. Sono accettato. Ehi, Benito sta allontanando, andiamo alla faccia che stava tagliando erba. A me trovatela già. Sì, Elio, va bene, siamo qua. Trovatela già. Trovato e comprato. Beganto, desiro. Oh, 10 euro, 9,90 euro, una cosa del genere. Ma io ho preso di quelli piccoli per il computer piccolino, Ehi, quelli costano più di quelli grandi. Costano più di quelli grandi. Sono quelli che c'hanno l'elastico, no? Perché c'è nel cavetto con l'elastico. Quelli ama. Esatto. No, già funzionano bene. A me lo stesso mi aveva fatto così. A volte si inceppava la rotellina, a volte si inceppava di volta e si buttava come. Siccome ne avevo un altro, anche se diverso il colore, ci ho messo quello lì. Anch'io uno nuovo me lo devo comprare. Io me l'ho comprato e dove hai che colore? Cosa? Il mouse, di che colore l'ho comprato, indovino? Trasparente? No, azzurro. Azzurro. quello, cazzo, ma io mi sono una tale rosa. Sì, ci sono anche rosa, è vero, li ho visti anch'io. Quelle sono per femminucci, eh. Blu è bello, blu. Sì. E visto c'è anche trasparenti. No, non li ho visto trasparenti, la verità, non ci ho fatto caso, non ci ho fatto caso. Sono andato lì da Media World, cosa c'è di roba Wi-Fi, c'è da perdere, ci sono delle cuffie là che costano 230 euro. Ce l'hanno quelle del sound, mi c'è anche le cuffie, ce l'hanno anche quelle della Sony, molto belle, ma quelle col microfono, e cuffiette non ne hai preso? No, cuffiette non mi interessa, praticamente, vabbè, a chi mi sa se c'è la batteria, va? La batteria? La spia della batteria mi si è accesa. La spia della batteria ti si è accesa. Fermati, controlla il trattore. E a arrivo a casa prima di tutto. Sì, va una spia, due allucinante, ragazzi. Spegnila e riaccendila la macchina, poi c'è qualche falso contatto. Ma il motore è spento lì. No, è acceso il motore, sta andando. La macchina sta camminando tranquillamente. Se sia in batteria, so che faccio contatto, buco qualcosa, no, se la spegni la riaccendi, e ti si spegne la batteria, vuol dire che faccio contatto, come è acceso il baracchino, buco. No, no, non è quello lì, no. Cosa maggio che l'ha pigliato allora? Non lo sta caricando, adesso. Appunto, quando si è rotta la cinghia. Pensate che mi porti a casa adesso. Tu già non ti lascio a piedi, però già il corpo tragitto. Sicuramente qualcosa è successo. È la batteria, adesso la cinghia. Adesso la controllo quando arrivo a casa. Come mi si deve buttare a casa? Parcheggia, non sei parcheggiato, allora controlli tutto, non ci sa mai. No, ma se fosse stato l'alternatore che non caricava, con le luci accese si sarebbe spenta. Vabbè, ma c'è l'autonomia la batteria, non è che un po' di chilometri già te lo fa, non è che ti vai a piedi in cucina. Hola. C'è nessuno? Ehi. Cazzo, dal telefono, piano le pizze, tutti gli amici, cazzo, danno le cose a me, vaffanculo. Non sai che ce ne facciamo tutto noi, sennò casino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 pizze, cazzo. E quindi tutti gli ingredienti, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, no? Questo è tutto, un piatto di cavallo, come la vuole il cavallo? Cotto, e il cazzo adesso fa al galoppo. Fallo al culo di scimmia. Cazzo, tre ore qua. Cazzo, che andate senso? Quindi già ne è arrivato a casa. Aia. Cazzo, poi così, il sabato ci veniamo con gli amici. Io c'ho più posto qua. Allora, e non organizziamo niente, aiuto. Già va bene. Capparoggia. Sì, domani mi organizzo. No, dopo domani, mi organizzo questo palo. Intanto mi viene qualche settimana, questa vicina. Intanto la tiriamo su. Sì, recupera un po', Elio, perché hai una collinetta, lo so dove sei, hai una collinetta e bevi qua, sei di fronte, però poi devi superare tutta questa zona, devi entrare dentro Sassari, ma non fare affidamento su Benito, perché Benito ha una zona molto molto particolare, e giù alla fine della Buddi Buddi, andando verso la strada vecchia che porta a Sorso, capito? Sì, certo, allora per quello, no, sono più basso io. Fatti capire dove c'è il rifornitore della Fina, no? Sempre quel riferimento, no? Il rifornitore della Fina, quello per andare a Sorso, proprio lui è di fronte, è proprio coperto, basso per Sassari. Ecco. Poi ci sono C'è tutta quella montagnetta di cosa, di, della leva del sole, è coperto come sì. Ehi, no, coperto, non fare affidamento. Avanti, non ci vede. Sì, positivo, sono ritornato. Ok, ciao Claudio, ciao Elio. Ciao Massimiliano, tutto bene? Tutto bene, ma scusate le cuffie. Ma usa tratti di cuffie, voi esageri. Un tratto di cuffie perché sento rumori che stanno cucinando, facendo qua, e quindi ascolto di meno. Non senti tu allora, ma noi già sentiamo, a parte il fatto che non si sente niente, in questo momento non si sente niente, è pulitissima la voce. Quando sento troppo metto il collo, va. Metto il microfono originale, sento un pochino di meno. Va bene. Quindi è bene che ascolti questa radio, sì? Sì, no, ti ascolto bene. Diciamo che come volume va benissimo. Mi sembra un po' cupa, come... ti manca la brillantezza dell'audio. Manca la brillantezza? Scappa, lascia un po' cupa, via. La cupa? Dipende sempre da come ti ascolta e... Non lo so, per me va bene. È ottimo, guarda già 60. Positivo. Va bene, solita angolazione, non noto differenza, evidentemente lui ha una ricezione diversa, ti sento più grosso di modulazione, mi devo dire quello. Ehi, positivo, va bene, con cosa avete ricevendo l'ultimo video? No, adesso ho il magnum attaccato, che ti sto ricevendo con quello. È positivo. No, comunque la radio è ottima, cioè non è bella amplificata, va benissimo. La sento un po' cupa, proprio io sono un po' vizioso su queste cose. A me come mi sta ricevendo quello MC 60 a 140? Il tuo è più brillante, un pochettino più brillante. Io non mi sto ascoltando questo 140, ma ho la vaga impressione che si sia un po' aperto da solo a fetta del giallo, non lo so, perché questo non è toccato, mentre col 430 mi senti proprio fortissimo di radio. Ma lo fai il 430 anche io? Via. Sì, no, ma non ho la differenza tra questo e il 430, sinceramente. Come radio mi sembra sempre uguale. No, è così. Aspetta che te lo commuto, stai attento, perché se questo è superiore al 430, allora c'è qualche problema. Aspetta che ti commuto il 430, aspetta un secondo, guarda. Vai, magari non sento bene poc'anzi. Ti stai sbagliando, Elio. Sentiamo. Cioè, questo qua è il 430, è meno forte del 140. No. Cosa? Questi ancora più brillanti, ancora più acuti, l'altro il 140 te la fa più grossa la voce. Ecco, adesso ci siamo, perfetto, questa c'è un bel di acuti, questa è fortissima, questa con Michelina 2 è micidiale, è molto molto forte, e poi è brillante, non è quelle radio praticamente con tonalità miste, questa picchia solo gli acuti e boh, non so perché. È brillante, puoi gridare quanto ti piace, non distorce, non fa niente. Avanti Massimiliano. Un altro mondo qua. È come un altro mondo la ricezione di Ghita, la Matessi Gosa. Di là ti sentivo un po' più grossolano, qua bello limpido, fortissimo del radio, vabbè c'è la colonnina esterna, la sua colonnina e poi qua per terra c'è una ricezione che non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno. Io a volte faccio le comparazioni in banda laterale con l'FT1000, Elio, e non se ne va, non se ne va, tenendo conto che l'FT1000 è una radio completamente diversa da questa, però non se ne va come ricevitore, 430 è un ricevitore micidiale. No, è una bella radio questa, no, non la cambio, scusa, con 140, mi spiace. Ma attenzione, io devo pure mettere il puntino, questa è una bella radio, però come ti ho sempre detto, anche il 140 è una bella radio, però il 140 lo preferisco, siccome il tuo è nuovo, non è toccato, lo preferisco con il 908, c'è più radio, più bella, ma il 60 va bene, però il 908 lo tiene meglio, hai capito, spingi di più, ma è più bella con il 908 e il 140. Guarda, se io decido, non lo voglio toccare, mi sto proprio limitando, frenandomi, come si dice, però se io mi faccio quel 140 come per me, dove nessuno mi può dire niente, picchia forte il 430, perché è proprio tutto chiuso. Figurati che c'è anche il trimerino, quello che conosci tu, dello Slider, a zero. Quindi già se apro quello è micidiale la modulazione. In più, lasciandoli batti come sono, in più le do un 10% di picchi di modulazione, proprio a spingere un po' di più, come potenza, proprio di picchi di modulazione senza sollevare la potenza, va bene così a 100 watt. E le apro almeno del 10-20% da LC, allora con 140 diventa forse meglio di questa. Sì, non lo metto in dubbio, però se io ti sto parlando lasciandola così, con 908 la preferisco. Attenzione, non è brutta col 60, però con 908, siccome è normale, non è toccata, la spinge un po' di più, ma hai capito cosa ti voglio dire già? Certo che sì, il equalizzatore parametrico, compressore inserito, è chiaro che spinge, lì sta spingendo solo il processore della radio che le dà un po' di spinta, la mia voce che aiuta e l'MC60 che è preamplificato, però è chiaro che con il 908 spinge molto di più, l'ho sentita in cuffie, mi sono ascoltato con una con l'altra, c'è il 50% in più col 908, sicuramente, però siccome è una radio che uso poco, uso sempre il 430, allora il 908 l'ho tolto per prendere un bel spazio e ho messo 60 di nuovo, capito? Tutto qua, va bene, comunque, te l'ho detto, quando sali ricordati di prenderlo, così magari lo puoi usare anche tu con quello lì e fare delle prove, visto che benissimo con l'80, con l'85 e con 60, però potresti provare anche il 908 adesso che è a posto per usarlo, intanto io non lo sto usando, ma Silvia, c'ho anche l'adattatore, posso usare anche l'808, c'ho l'adattatore Icom Kenwood, quindi posso usare anche l'808, anzi adesso lo provo l'808, va con l'adattatore, visto che non stiamo facendo niente, così vediamo che non ha parametrico, vediamo se spinge quanto il 60, se la mia voce o se la radio che fugge. Avanti Elio, che cambio microfono. No, questa è perfetta come radio, è perfetta. Tu che ci stai usando il 140, no? Sì, io? K? No, io sto usando il 180. No, ho capito. Anda bene. Positivo, va bene, io sto usando il 180 con l'MC60, capito? Ti posso far ascoltare anche c'è l'MC85, se ti piace di più, te lo posso far ascoltare se vuoi. Ma l'MC85 è buono comunque come microfono. Vale, c'è delle regolazioni, ciao. Ora. Allora, questa è la V808. Come va? Che questo è bello, eh? Spinge? Spinge, funge. Più dell'altro? O come l'altro? Ma diciamo che siamo lì. Però questa qui ti fa più acuti, capito? C'è più meglio bassi, c'è più acuti. Oh, questa è proprio battagliera. Questa è bella. Oh Elio, guarda, questo è l'85, come ti sembra? Fai passaggio. Guarda, radio. No, va bene anche questo. Si sente che è un Kenwood. E ma dico, è un Kenwood a combattimento, non penso. Insomma, ero per gli isolati così, eh. Ma bella come radio, bella aperta. Quella era la mia lo stesso. Hola, hola, mi ho messo le cuffie. Beh, questa è una bella radio, ma attenzione che c'ho il coso a uno, aspetta che te lo metto a livello dell'altro, Massimiliano. Eccolo qui, eccolo qui. Perfetto. Allora così è praticamente a due come l'altro microfono, com'è? Forse è troppo, qua l'hai aumentato, abbassalo leggermente perché ti ha sporcato appena appena la radio. Allora, devo abbassare appena appena, forse è troppo alta. Allora, vediamo un pochino così. Ecco qua. Allora, così è praticamente a 1,5, vai. Ecco, così è perfetta, bella, bella, forte, presente. Ci sono tutte le tonalità, bellissima radio. Confermi, Elio. Scusa che mi ha un attimino disturbato mia moglie. Ho detto così, la M808, questa è una M808 della Dolis. È praticamente allo stesso livello delle MC60 come Mickey Game. Com'è la modulazione? Buona? Bellissima, non buona. Bella, vero? Io purtroppo con queste soluzioni non c'è Cristo. Non c'è Cristo, anche con l'SM20 della ICOM, con l'adattatore ICOM Kenwood, non c'è niente da fare. La modulazione non cambia, attenzione che anche la radio spinge parecchio, perché anche questa è fatta a turbo. Però come timbrica di modulazione credo che sia buona. Buonissima, bella, brillante, bella. Ma Giumacchio, stai così il microfono che è con 60, là. Ma che bello davvero, non avevo sentito il 430 con questo microfono, io avevo sentito il 140 con questo microfono. Avevi sentito, non l'avevo attaccato perché non mi ricordo perché, però ero sicuro che andasse bene lo stesso. Andava bene lo stesso. E la prova che non posso fare, non capisco il perché, il 908 va bene sul 140 con le stesse connessioni. Tutti i microfoni che ho, anche della ICOM, l'SM20 con l'adattatore, funziona perfettamente sul 430, mentre l'unico microfono che non posso usare col 430 è il 908. Mi va importante, non capisco perché. Io capisco perché, ma se su 140 va bene, non riesco a capire perché su 430 non va bene, quello che non posso dire, non lo so. Bella radio, complimenti, veramente bella radio questa qua. Questo, quel microfono lì, guarda, anche se non è parametrico l'808, perché però è una capsula eccezionale, va veramente molto molto bene, va veramente molto bene. E mi devo prendere la spugnetta perché così non mi piace, o le metto quella dell'85 per farlo andare un po', per usarlo. Questa me la regala Andrea, questa me la regala Andrea. Adesso praticamente il mio anche questo, quindi due radio ICOM a due uscite, posso usarlo con due radio ICOM che sicuramente arriva la seconda perché ho già deciso col trovetto 756 e quindi userò il 7004 e il 756 con l'808 con due uscite microfoniche. L'SM20 lo conservo, ne metto da parte dentro la scatola. Non so se collegarlo al 706, vediamo, non lo so, qualche modifica dovrò fare, beh. Va bene, quindi la modulazione va bene, io a te. Scappa, no, io approfitto per salutarvi perché stanno arrivando gli amici. Devo preparare alcune cose. Ci sentiamo, anzi sono già arrivati, sento le macchine. Ci sentiamo o più tardi, se non mi fanno fare tardi oppure domani. Dai. Un abbraccio a tutti, ciao! Ciao, ciao Elio, dai, ciao, ci sentiamo. Dunque io c'ho un collega del tuo paese che lavora con me, lo sa? Sicuramente si è allontanato, perché c'aveva gente. E quindi Massimiliano, questo microfono praticamente da mattana all'MC60, così. Allora, qua, ti sto dicendo che io nel 430 non me l'avevi fatto ascoltare perché l'avevi attaccato al 140. Ti dico che senza attesa è sempre, mi piace più questo del 60. Ma così, E allora? E allora lasciamo questo, facciamo andare un po' anche questo qui. Tanto i microfoni che ho io sono tutti con lavatatori, quindi già vanno bene. Ok, sì, la batteria è bella carica, perché vedo che il modulometro praticamente va tutto al massimo. E allora lasciamo questo qua, Massimiliano, così obiettivi. No, puoi mettere anche 60, ovviamente, ragazzi, è bello anche 60, non ho detto che 60 è brutto, ho detto che come tipo di modulazione preferisco questa qua che 60, ma non ho detto che 60 è brutta, attenzione, 60 è sempre al 100%, però questa qui è al 110%, capito? C'ha quel pizzico in più. Il pizzico in più è importante quando c'è sempre qualcosa di bello, che c'è un ritocco in più. No, non avevamo provato quella verità con 430, avevamo provato solo con 140, e poi avevo fatto le prove con 7400 in banda laterale e andava alla grande, simile all'SM20, dai. Anche l'SM20 è un bel microfono, va benissimo. Questo è vero che mi sto ascoltando in cuffie, cazzo, c'è una radio micidiale. Se te lo sto dicendo, qua c'è una radio avvicinante, ti ripeto, c'ha quel pizzo e con più del 60. Anche avvicinandomi così a 20 centimetri, perché lavoro sempre a 40-50 centimetri, anche avvicinandomi così a 20 centimetri, bella lo stesso. Bella lo stesso, lo strappa, sempre uguale, Cla, non ha cambiato una virgola. Prova avvicinato un altro po', vedere. Guarda, così sono a 10 centimetri più o meno, dai, dal microfono. No, ma è la radio, Massimiliano. La radio è micidiale, c'è un sistema di autocontrollo tra il microprocessore e il processore che non strappa mai, capito? Io anche se te la metto, se sollevo il mic gain molto alto, senti un bel di preamplificazione, ma non strappa assolutamente. Bella, bella, anche se ti avvicini attaccato al microfono, sempre bella. Gappa, cosa bolle in pentola lì? Io, lo sai che non so mai cosa sta fuori cucinando ancora? Non te lo so, neanche lì non lo sta cucinando. So qua, vedo la pentola, però non so cosa c'è dentro. No, non volevo sapere quello, ci mancherebbe altro. Ho detto cosa bolle in pentola stasera, cosa ho detto, che programma c'è? Sì, che programma c'è, non lo so se deve scendere a bolle in assoluto, non so, sicuro, perché io sono tutta la sera dentro casa, non so se la nera se mette d'accordo con la mamma, se viene qua o cosa dobbiamo fare. Gappa, va bene. Poi sento in cuffia c'è lo stesso stacco, vabbè che i PTT sono tutti uguali, una volta che c'è il PTT e l'OC, c'è lo stesso stacco del 60, no? No, sono figliato, ma auguro, va, c'è andato nel troppo. Ma che accordo, Benissi, se non te lo dicevo non te ne accorgevi. Guarda, questo è il 60, spinge lo stesso come quello là. Questo qua spinge faccio come quello là, ma quello là c'è il pizzo in più. E te l'ho detto, te lo stavo per dire, mi hai anticipato. Ci sente che c'è il l'occhio del 60, amici di Ale, cazzo, non riesci a fottere. Mi, se usi il PTT forse riesci a fregare qualcuno se non stai attento. Ma come schiacci l'OC o i CVT, si intendi tac tac. Prova a schiacciare il PTT a volere. Guarda, così è solo col PTT, va. Ora lo fa solo ed esclusivamente quando attacchi. Quando attacchi non si sente nulla. Ma è una comodità allora. Io guarda, il PTT non lo uso quasi mai degli MC60, anche dell'MD1, dell'SM20, quelli che hanno il lock io sempre tengo premuto sempre il lock perché è una comodità, capito? O magari la mano a una sigaretta, con l'altra mi sto grattando le balle, capito? Anche io qua, fine con patate. Prima ero abituato sempre a schiacciare il PTT, adesso mi dà fastidio tenerlo schiacciato, sempre con il lock. Una comodità. C'era Gianni rientrando da Media World, gli si è accesa la batteria della, la spia della batteria della macchina, vediamo un po' se è rientrato a casa. Gianni? Io sono a casa, mi sto ascoltando là. Bene, hai verificato, sta a posto? Sì, ragazzi, attenzione, c'è l'alternatore che non sta caricando. Ma c'è attenzione, la batteria può fare il cacciato per un bel po', non si scarica. Si prova così, Gianni, ciao, buonasera. Non si prova con le luci accese la batteria. Se ti si accesa la batteria, la spia della batteria, c'è l'alternatore che non sta caricando. Già, ti sono consumate male le spatole. Infatti, è quello che questo sarà l'alternatore, perché la cinghia in tira, anche la cinghia penso che lo sai che non carica lo stesso. Però se non gira la cinghia, non ti gira neanche la pompa dell'acqua, hai capito? Se si accende più di una spia. Esatto, sì, perché quella volta c'ha la cinghia dell'alternatore, poi c'è la doppia pulizia, c'è anche la pompa dell'acqua, e quindi si sarebbe accesa anche quella. Invece sicuramente sono le spatole dell'alternatore già, è una cazzata cambiarle quelle, una cazzata. Però domani è domenica, caro mio. Se riesci a arrivare a Porto Torres e portarla subito all'elettrauto, puoi scendere al lavoro, se no ti conviene scendere con l'altra macchina. Ma con la moto? La tua macchina la devi usare mia moglie per andare al lavoro. La moto, c'è una circolazione bloccata, la devo riattivare. Vabbè, ti fa peso che meglio. Vabbè, comunque sicuramente se non accendi le luci a Porto Torres ti porta. Arriverai con la batteria un po' scarica, però già ti porta. Non è quello il problema, capito? Come arrivi la porti dall'elettrauto, e se no ti conviene cominciare a telefonare da oggi e vedi i luni non vanno. Che sei a cusci. No qua. Assolutamente no, quello lì no. Anzi, sono arrivato oggi prima, anche se non trovo ancora bene. Figurati. Già, le spazzole sono a cambiare, è una cazzata, non è che ci voglia una giornata, no? La porti lì dall'elettrauto, da Elio, quello che c'è via, l'elettrauto che c'è lì vicino a casa tua lo stesso, dove c'è la questura, e te le fai cambiare, è un affarino di plastica così, con due spazzoline, quelle molle che entrano e escono, ti toglie quelle e ti mette, sono due viti, gli attacca il filo e ci stai andando. Se no non so che autonomia abbia, per portarla a Porto Torres e dare l'elettrauto tuo, non so da chi la porti, non so che autonomia abbia. Quanti chilometri può fare così, Massimiliano? Può fare, non è che si è accesa già la batteria. Sono a casa solo per comprare il mouse perché mi si è rotto. Per la volta che si è acceso, cavolo, posso provare a rispondere la riparazione, magari qualche faccio contatto, poi dopo abbiamo messo lì un po' di strati, i contatti, niente da fare. No, non avrebbe mai i contatti, no. Magari tiene le luci spente quando scendi giù a Portottone, il contatto non sono obbligatorio, tu arrivi a Portottone e a Portottone, poi paga la macchina e non accendi il baracchino. E possibilmente se c'è l'autoradio, se c'è qualche led acceso, possibilmente staccalo. Sì, basta non accendere niente, già ti porta tranquillamente a Portottone, c'è la grande, via Puglia. Ma la prova non può essere, perché la fanno fatto qua, non è solo che cosa. No, se si è accesa una bella batteria con l'alternatore che non si sta caricando la batteria, non è la batteria. Perché se fosse stata la batteria già, anche la messa in moto sarebbe stata molto più lenta, hai capito? Le luci energetiche si abbassano proprio se fosse stata la batteria. E infatti non ce n'è collegamento alla batteria, comanda l'alternatore, la spia è attaccata all'alternatore, quindi quando si consumano le spazzole, allora ti si accende la spia. Ripeto, non so che autonomia abbia, però già a piedi così sul momento non ti lascia, capito? Quindi no, non ci sono problemi. A quanto ampere era la batteria già? Da 65. Ma 75. Ma 75, ma per quanto è, da quanto è quella macchina? Cos'è? 1.500 la macchina. 1.400 è. È 1.400 Massimiliano. Ma 75 è un po', una è grossa come batteria. E mamma, l'ha messo a proposito così. Guarda che tu non devi mettere la batteria da 75 ampere, tu devi mettere la batteria giusta con, come si chiama? Adesso non mi viene il nome, aspetta che ci fosse più ricco. Con lo spunto deve essere superiore, lo spunto, non gli ampere della batteria. Perché non dice con la macchina, 1.400 benzina, dovete montare una 60 ampere, non una 70 ampere. Dopo la macchina mia del 1975 ampere. Poi sembra andata bene Massimiliano, non ha malato problemi. Sembra andata bene, io ho montato perché c'è il baracchino, c'è questo, c'è l'altro, quindi per l'assorbimento è più chiaro. Da quanto è la tua Massimiliano? La mia è da 70 ampere, non è 1.900, ma c'è uno spunto da 800, no, da 600 qualcosa però, attenzione. La mia è da 85 ampere, c'è lo spunto da 600 mA mi pare. Ma cosa c'è di te? Cosa vuoi dire? Sì, te lo posso vedere quando sono con la macchina mia. 85 ampere la mia. Sì, ma lo spunto non è 600 mA, no, la c'è di te. Sì, la di te, se vuoi dire un alimentatore. Ok, come li misuri tu gli ampere della batteria? Così c'è scritto 600 mA, 1.000 ampere. Vai, è la genitore, adesso non mi viene il nome, fammi pensare, te lo dico, la genitore, 4 mA, ma la genitore. 1.000 ampere, non sono ampere, 1.000 ampere. Non sono 1.000 ampere, come dici tu. Io stai sbagliando, c'ha ragione Massimiliano, come fanno a essere 1.000 ampere? Sono meno di 1 ampere. C'è scritto MA, cosa vuol dire? Ma lo spunto deve essere superiore dell'amperaggio della batteria, se no cosa serve lo spunto, scusa? Quale spunto? Stiamo parlando di spunto, noi stiamo parlando, c'è scritto, allora la mia è da 85 ampere, AH, e poi c'è scritto sotto 600 mA, cosa vuol dire? E quello lì è lo spunto della batteria, cioè che arriva in picco per far partire il motore elettrico, che deve avere uno spunto maggiore dell'amperaggio, di tot ampere, che di solito è 600 ampere, ma non può essere 1.000 ampere, 1.000 ampere manca 1 ampere. C'è scritto MA, cazzo, MA ho letto io, tu, non già mi sciogo. No, ciao, no, non è così, stai sbagliato. Sto dicendo una cazzata, c'è scritto AH. Se voglio ampere come ti faccio, scusa, 600 mA, cioè comincia già la parola stessa, non può essere 600 mA, la batteria da 85 ampere. spunto non può essere inferiore, no, all'amperaggio. Scusa, allora c'è scritto AH 600 AH, cosa vuol dire? A pedale curvo. Amperora. E cosa vuol dire? Amperora. No, come c'era il nome che dello spunto, come... Dai, ora sì, Duca. Lo spunto c'ha un nome particolare, non mi viene quel nome, ci sto pensando, ma non mi viene, te lo dico. Boh, io comunque la mia è da 85 ampere, è quello... c'è scritto perché l'ho vista, la nuova nuova, me l'ha messa Rozzetto, non me l'ho portata a fare il tagliando la prima volta perché la batteria era vecchia, e poi ho letto io 600, a me pare una M, vabbè, senza epiciti, MA, vabbè, comunque cosa sei entrato a fare, a riprendere la gente, entri tu, poi stai zitto, dimmi cosa vuoi. No, aspetta, lo sto cercando su internet, così ci togliamo questa curiosità tutte e tre. Sto facendo, dai, ci sentiamo dopo. Ciao anche, ciao Massimiliano, ciao anche a Claudio. Ciao già. Ciao già, ci sentiamo dopo. Ecco, controlla. Perché ora ci si dice una cazzata, forse più di podarsi, però lo sento occhiale, ma io ho letto 600 MA, una M, io ho visto MA, che cosa significa ancora la batteria che è della Varta, non lo so, sotto gli 85 ampere AH c'è scritto 600 MA, adesso perché è buio e non voglio scendere a controllare. Domani controllo, mi sembrava una M, se non è una H, vedi un po' tu. Può provarsi che questi milliampere sia qualcosa di diverso, per lo spunto tu, non lo so, non voglio insistere, però io qualcosa di M l'ho letta anche la batteria. Ragazzi, io vi lascio, che c'è gente, scusate un secondo, lo riprendo dopo se coincido. Ehi, va bene, allora lasciamo questo microfono come mi hai detto, no, non c'è problema. Stai controllando se c'è qualcosa che parla di queste cose? Capo, l'ho trovato un attimino che adesso, ciao Massimiliano, un attimino che te lo leggo fra un attimo. Sono curioso perché... ho letto 600, mi sembra una M, MA, la A c'è, però non vorrei dire una cazzata, se c'è la M voglio capire cosa significa questo 600 mAh su una batteria da 85 A. Allora, fatti spiegare così. Sulla batteria vedi la capacità in HAH, che è lo spunto espresso in ampere. Lo spunto è l'intensità massima di corrente che riesce ad estrarre da una batteria senza causare danni alle piastre, come se l'avessi messa in cortocircuito, causando direttamente con un conduttore a resistenza zero i due poli. Lo spunto è dovuto alle caratteristiche costruttive interne della batteria. Ovviamente le batterie culo, che è scritto KULO, possono portare stampato uno spunto che non esiste, è troppo alto, quindi conviene semplicemente comprare, che c'è scritto male, una batteria buona della capacità di spunto della casa. Comunque, hai capito, in breve quello che il massimo che la batteria può dare messa per un attimo, per una frazione di secondo, messa sotto carica massimo. Quindi questi, ma è milliampere, non ne parla, sempre ampere. Tu hai detto non MA ma H, che è appunto il potere di spunto della batteria. H, quindi non è una M, è una HA, non è una controllo, quindi praticamente è lo spunto, sì. Naturalmente più alti sono gli ampere, quindi una batteria da 100 ampere, per dire, anziché avere 600 H, dovrebbe averne di più. No, quello è relativo invece, vedi? Cioè non è che se una batteria da 44 ampere di crociera ha per forza meno ampere di una batteria, cioè meno ampere di spunto di una batteria da 100 ampere di crociera. Cioè se tu prendi una batteria da 44 ampere e una batteria da 100 ampere, se la batteria da 44 ampere è buona e quella da 100 ampere che hai preso è micragnosa, è possibile che abbiano lo stesso potere di spunto, capito? Quindi quello che interessa in una batteria è più il potere di spunto che l'amperaggio vero e proprio. Come hai detto? tantissimo che fosse al contrario, lo sai, perché la mia era da 75 ampere quando ho preso la macchina, però era praticamente, andava bene, però era vecchia come anni, e quindi l'ha messa nuova lo zeddu e me l'ha messa da 85 ampere, mi ha detto così va meglio, insomma sono 10 ampere in più. Infatti ha parlato di spunto, hai più spunto in più, il motore gira più veloce visto che è molto pesante, però non mi ha detto questa cosa. E un po' nemmeno come succede nei frigo o comunque in tutti i motori elettrici, inizialmente la richiesta per far muovere il motore, per forza di cose, e tu immaginati di dover spingere una macchina, per spingere una macchina lo sforzo iniziale è quello superiore, no? che è quello che ti permette di farla muovere, dopodiché una volta che la macchina è in movimento basta poco per farla andare avanti per inerzia, quindi lo spunto è quella forza che ti serve inizialmente per far girare il motore da fermo. Una volta che poi il motore è iniziato a girare, i consumi si riducono e si attestano a un amperaggio inferiore. K. Molto bene. Almeno sappiamo esattamente qual è, anzi so esattamente qual è il procedimento di questi amperaggi delle batterie, perché a volte vai a comprare una batteria e dice era un po' più grande, così c'è, invece non è assolutamente vero. Molto bene. Ascolta me, per parlare di un'altra cosa, sono andato a trovare Roberto l'altro giorno, mi ha detto che c'hai quella lamiera lì ancora. Lo so, ci ho pensato anch'io, no vabbè digli che se la usi, che non c'è problema, che non se ne fa niente, perché poi alla fine volevo fare una modifica e lui mi aveva aiutato a costruirne il prototipo per un distributore, poi non è andata bene perché conveniva più a Giumai comprare il distributore già bello che è fatto piuttosto che modificare gli altri, e allora niente, gli ho lasciato quella lamiera che avevo comprato, ma pensavo l'avessi già usata, figurati, è un pezzettino di ferro di sarà un metro quadro di lamiera. No, mi ha detto quello, mi ha detto appunto che c'era ancora questa lamiera tua che non eri più passato per fare, insomma, per vedere quella cosa che ha fatto vedendo, tutto qua, nessun problema. Ok. E beh, dell'altra cosa, altro movimento hai fatto? Movimento che mi sto sgarrando la canna. No, per chiudere il discorso, poi ero passato anche lì da lui, però era oberato dal lavoro, aveva ben altri problemi che stare dietro alle mie cagate, quindi non c'ero più passato, capito? Quell'altra cosa sta andando, sembra così, ma mancano 2 mesi e sono in pieno marasma, capito? Pieno marasma perché devo curare sia l'aspetto burocratico che l'aspetto anche tecnico, pratico, costruttivo. Aspetta che mi sto buttando tutto in terra. Tecnico, pratico, costruttivo e niente, sono un po' indietro. Gappa. Va bene, ehi, vabbè, tu. Intanto è quella a disposizione, quindi tra una cosa e l'altra, anche quello va messo in mezzo. E quell'altro Ubi sta andando? Ci stai lavorando, sì? No, negativo, l'ho un attimino accantonato, ma perché devo fare queste cose, cioè quello è bello per rilassarsi, tranquillo, lo devi fare quando non c'è gente in spiaggia e tutta un'altra serie di cose, non farli se no. E piuttosto, non è che conosci un posto dove poter prendere dei pallet di quelli che buttano via, perché solo gli euro pallet li vendono, mentre invece quelli da buttare, adesso magari domani, dopodomani vado a cosa, vado al mercato e vedo un attimino se ce n'è qualcuno buttato da qualche parte. Il mercato già ne trovi più di uno, ma guarda che quelli fini, quelli fatti a mascelli, quelli fini che c'è ottobre, non sono a restituire, perché le roppalle te lo so, te le vado le burbaga, alla plaza a Porto Torres, questa non è gazzata, amici, nuovo, pulito, ordinato. Tu immaginate che da Sidernet me ne hanno dato 20, una ventina, una trentina, non me ne hanno fatti pagare, capito? Secondo me ne servono parecchi, me ne servono almeno un'altra ventina. Se sono a gratis è meglio, so. Guarda, a grattici li puoi trovare. Allora, o da Capolino, dove arrivano le piazzelle, su quelle lì arrivano molti che non sono Europallet. Li puoi trovare da Desole, la stessa cosa. Li puoi trovare a Porto Torres e alla Sarda Laterizi. Ce ne sono tanti posti dove sballano il materiale. Li puoi trovare a Città Mercato, dietro dove c'è il... dove scaricano i camion, anche lì. E in effetti domani mi faccio un giro quasi, perché sono andato anche alla metro, però sono in una specie di compattatore, ti devi afferrare per cercare di tirarli fuori, capito? Una rottura un po' di balle. Sì, alla metro c'è un compattatore, quello di Pippo, nella Spissarda, c'è anche quello per il legno, adesso il compattatore. Però ti sto dicendo, se tu vai per dire a Città Mercato, dove arrivano i camion a scaricare, no? L'ingresso principale, già l'hai visto, lì ci sono sempre, perché i trasportatori a volte sballano e mettono la roba sballata, ma non che non sia consegna su pallet, però li tolgono quelli. Altro da Capolino, ti ho detto da Desole, sballano tutto il materiale quando arriva, e poi al mercato sicuramente al 100%. Ma stavano andando adesso, sai chi ce li aveva? Ce li avevano tutti quanti, ma ce li avevano perché trasportavano il pellet con questi pallet, però da Bricomen, però adesso dice che non c'è più, che non lo stanno più dando per una questione climatica, non lo stanno più vendendo, non se ne trova facilmente, capito? Infatti a proposito dovevo chiedere a Gianni, ma me ne sono dimenticato. Ok, lei non ti scopri, spendi su, ti va, devo spingi solo. Cosa mi compro, cosa hai detto? Metto un pezzo di legno, ma per arrostire. Oh, ya, yeah, per arrostire, perché sto costruendo la pista da ballo di questo baretto e poi devo spendere un bel dinar per metterci il multistrato marino a coprirli. Cazzo, già mesci un conto, se spendo anche per il fondo. Conto, non sono leggeri quelli. No, negativo, leggeri. Tu immaginati, caricano tonnellate, perché quando caricano il cemento, vabbè che quel cemento magari lo mettono con l'Europallet, però anche il pellet quando sono una quarantina di sacchi stiamo parlando di 300-400 kg, capito? Quindi leggeri non sono, già regolano. Beh, effettivamente sì, perché poi sono talmente allineati bene, squadrati bene, sì, no, come legno stavo dicendo io, però poi alla fine una volta c'è il multistrato sopra, l'allineamento è giusto, non c'è cedimento. Sì, infatti, ma poi ti ripeto, in un metro quadro devi fare il calcolo che al massimo ci stanno, se sono 32 persone, ma al massimo, quindi stiamo parlando di 160 kg di pressione su un metro quadro. Se consideri che un pallet almeno di pellet tiene una ventina di sacchi, se non anche qualcosa di più, il sacco è da 15, sono 300-400 kg. Vabbè, tu se va a ballare va bene, ma se andiamo a ballare io e tu, cazzo, sono 200 kg. Cazzo, se vai a ballare Gianni allora si fascia, allora non lo devo invitare. Cazzo, sono io a 90 io, ormai si è già di due. Mamma mia, come sto. Va bene. Che ti costa? Quelli già li trovi sicuramente. Se perdi una mattinata, ti fai un giro, li recuperi. Che ti costa il multistrato? Cazzo, è poco gusto, capisci? No, ho trovato più che il multistrato, quel trucciolare a foglia grossa, che si chiama OMS, una cosa del genere. E costa da Bricomen 2 metri quadri e mezzo, se non anche 3, costano 12 euro, però quello fino va bene anche quello da 12 mm, da 12 mm o un centimetro e mezzo, se non ricordo bene. Ho capito qual è, sì, va ammazzare per più un casino. Vabbè, sono anche al computer che cercano dei pezzi là. Siccome dei pezzi di telefono, dei driver per computer. Siccome mi sono fatto la, come si chiama, la registrazione da Postpay a PayPal. Così posso comprare tranquillamente, non ci chiede cose agli altri, va bene, quindi mi si rompe le palle, non riuscire a fare una cosa che è una cazzata. Allora, questa volta ci sono riuscito, che cavolo, così qua direttamente pago, quanto è 20 euro, automaticamente ci prende i soldi da fare, cioè, da Postpay a PayPal, qua, credimi, tu contento di più. Sta qua a casa, mi. Cos'è? L'acqua calda ha scoperto Luca. Vabbè, scusa, l'ho già registrato, no? E praticamente la prima posto prima l'hanno clonata e me l'hanno fottuto i soldi. Faccio vedere l'altra volta se mi riportano lo stesso. Lo so, anche a me me l'hanno fottuto io la PayPal. Ormai è già 5 anni, 4 anni che uso la PayPal. Ciao Luca. Oh, ma cosa stai ascoltando, Luca? No, io è... Aspetta che abbasso. C'è la musica. Allora, Lu, io a Postpay ho fatto la registrazione a PayPal. Ora ho notato una cosa. Quando fai una registrazione, sì, vabbè, il numero a casa deve apparire. Come mai uno ti chiede il numero che c'è dietro? Non escono gli asterischi, ma bensì se esce il numero. E questo non capisco, non deve apparire il numero che c'è dietro. E le ultime tre cifre, sta dicendo. Tre cifre, bravo. Ma l'hai fatto al tabacchino? Ah, figliata, mi sono registrato con la Postpay, l'ho appoggiata tramite, cioè io qua faccio il pagamento tramite la PayPal, capito? Sì, ma io ho fatto l'altra, che è più sicura, l'ho fatto al tabacchino, capito? Ti danno proprio la carta PayPal, con scritto PayPal, capito? Con quella lì poi, quando la devi ricaricare per pagare tramite eBay e altri negozi, la ricarichi, la dai al tabaccaio e lui ti mette i soldi che tu vuoi, gli dai i soldi, poi vai a casa e ti fai in automatico, fa tutto in automatico il pagamento. No, ma è andato uguale, perché praticamente con... come si dice, con questo che ho fatto io, vabbè, si prendono un euro in più, non me ne frega niente, ogni pagamento si prendono un euro di transazione. Vabbè, vediamo un po', dai, se mi riportano i soldi, comunque mi hanno sempre detto, quelli delle poste, mai lasciare i soldi nella Postpay, perché se li fottono. Perché sono facili da clonare queste carte. Infatti metto, quando tu ti fai un acquisto, ci metti adesso 50 euro, vai, fai l'acquisto subito, non te ne vedi la carta, ti dà sempre vuota. Ma la PayPal è più sicura, ce l'ho io anche, l'ho fatta in via Pascoli da Massimo, al tabacchino che c'è in via Pascoli, una vera carta di credito. Io lì ci metto ogni mese, ci metto dei soldi e la uso come carta di credito. Capito? Ti sta dicendo Luca, è molto più sicura quella lì, è proprio registrata come che tra via la banca, è proprio una carta di credito che ti dà il tabacchino, c'è scritto PayPal. Mi ha sentito 2 minuti. Sì, lo so. So, sono andato da Simone, quello di via Pascoli, e mi ha detto che praticamente la finanza le ha bloccate provvisoriamente. Bloccato le carte, cioè, quelle volte vanno, però queste le fanno adesso, le hanno bloccate, dice c'è stata una mezza truffa e devo aspettare, appena mi dà l'ok e me la fa, me la faccio faccia anche quella per sicurezza, lui c'è più tranquillo, poi in caso di rifiuto, cioè ti fermano i soldi e ci risponderà, sono carte della PayPal. Molto male le viene a...